Guarda l'orario. 21:30, avevo detto 21 però. Ma tu hai detto 9 e mezzo. No, avevo detto 9. Ah, cioè... ah, avevo detto 9 e mezza qua. Vabbè, comunque, benvenuti. Ciao Giulia. Benvenuti all'Halloween special di Tycoons and Dragons. Ma non è Halloween. Non è Halloween. E questo è già speciale. Va bene. Allora, ciao a tutti. Oggi giocheremo a un gioco... cioè, in realtà giocheremo a Dungeons, ma con un'ambientazione... è diversa e soprattutto non hai effettuato l'accesso, ma soprattutto voi non ci state ancora vedendo. No, funziona. Senti quell'altro da di là, come si chiama? Boh, non so perché, vabbè, serviva il nome per un personaggio. Aspetta, vediamo se stanno alla diretta. Comunque, vabbè, benvenuti. Noi siamo Tycoons and Dragons. Come si chiama? E come sempre, ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook di Tycoons and Dragons e anche su quella di GDR, oltre che sul blog GDR. Però un bel nome. Comprate i nostri gadget. Comprate i nostri gadget su Society 6. E detto ciò, io non ho capito perché fa così. Tycoons and Dragons è in diretta. Però mi pare che stiamo andando in diretta, quindi non tocco niente qua. E rimango. Vabbè, benvenuti, noi siamo. Sì, va bene, va bene. Ci siamo. In teoria. E ok. Enrico Cattabriga nelle vicinanze. Allora, per quanto riguarda le mappe, Catta. Cazzo sono quelle carte? Tarocchi. Ok. Quanto ha bisogno di una mappa? Me lo dici e io provo a farla. Prova, ma non ce la farà. Va bene. Perché è il modo più semplice. In teoria dovremmo riuscire a vederla anche qua. Vabbè, adesso vediamo. Perfetto. E quindi diamo la parola. Ah, intanto salutiamo gli ospiti. Con me Andrea Giacomo Vecchi da Bologna abbiamo Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Luca Lazzarini e il master di questa sessione, un ben trovato a nostro Enrico Cattabriga, a cui lascio la parola. Buonasera, sventurati. Vuoi un applauso? Visitatori. No. No. Cioè, se volete. Molto bene. La sigla deve scegliere il cazzo. La sigla è Profondo Rosso dei Goblin. Vabbè, quando tanto l'hai spoilerata, però. Come faccio a sceglierla? Se è qua. No, dovevi dire scrivevi. Scusami, ma troppo quindi... complicato. Scrivevi il pizzino. Molto bene, sventurati viandanti. Siete finalmente giunti in una accogliente locanda. Allora, siamo così sventurati. Per adesso. Cerca che non ho capito. È Profondo Rosso, dai. Non ho capito. Ma diciamo ai nostri spettatori. Cosa gli vuoi dire? Chi siamo? Cioè, nel senso, tu hai detto che siamo arrivati, ma chi siamo noi? Adesso lo stavo per dire. Tycoons and Dragons, ci potete seguire. Ah, no, quello è certo. Tra l'altro, è un ottimo momento per presentare e dire i vostri nomi, dato che non me li avete ancora detti. Io te l'ho detto. No. Non l'hai segnato? No. Sì, ma... Ah, bravo! Tieni al sottofondo. Aspetta. Dura quasi 4 minuti. Città. Non so se si è connesso a qualcosa. Va bene. Nel frattempo, avete attraversato lande, foreste desolate, attraversando tempeste... L'ha presa lì? No, non lo so. No, dimmi no. Adesso sentirete anche la partita in diretta. Esatto. No, come facciamo che scavo ci faccia il... causa? Tutto. Cosa ho fatto? La fotocamera. No. Cosa ho fatto? No. No. Perché hai dato il giochino a Sheo, scusa? Non voglio fuori. Fate parlare Kat. Molto bene. No, sentivamo la partita. Molto bene. Canta, parla però potente oggi che sei lì, ecco, però va bene, fatti sentire. Ecco il microfono. Oh. Avete attraversato tempeste, nubifragi e siete zuppi fino all'osso per via del lungo viaggio, ma siete finalmente giunti in questa taverna accogliente e calda. Il sapore dello stinco molto accogliente. Il sapore dello stinco inebria le vostre narici e la freschezza della birra disseta le vostre gole. È da qualche giorno che siete diventati modestamente famosi tra la gente. grazie alle vostre gesta del tipo... Nessun nome lo sanno pronunciare? Athanas, no? Athanas. Non è difficile. Con l'H tra la T e la... No, non è un problema, siete conosciuti come quelli che hanno ripulito i campi da un'invasione di goblin e coboldi. Siete molto ben accolti dalla gente del posto che si intrattiene alla taverna quando la porta si apre e il suono del tuono riempie l'aria. Sulla soglia c'è un personaggio alquanto singolare. È un gobbo. Perché è da solo? Esatto, okay. È da solo. È un gobbo vestito con abiti sgargianti. Ha una faccia molto particolare, abbastanza deformata in un ghigno beffardo, e parla tra sé dicendo cose senza senso, tipo 36 sul campo, qualcosa del genere. Alle guance rosse? E abbastanza. È un passo di sopra. Esatto. Arriva sul triciclo. No, scherzo. Scruta gli avventori della locanda e posa lo sguardo del suo occhio, unico occhio aperto, molto aperto, direste che non ha le palpebre, su di voi, e si avvicina zoppicando portando una lettera in mano. Vi consegna questa lettera fatta di una carta estremamente pregiata con sopra un sigillo in cera lacca. Mi dice: il padrone mi ha detto di darla a voi. Il padrone è il nostro amico. Chiedo. Vi attende. C'è qualcosa che mi perseguita. Nelle sue terre. E poi se ne va in un angolo a sbevazzare e a gozzovigliare. Leggete il contenuto della lettera. Si tratta di una richiesta di aiuto, altrimenti non andiamo avanti, quindi avete poche scelte. No, io avevo richiesto che venisse scritta in maniera leggibile, però. Non la lettera è una richiesta di aiuto. Il contenuto è scritto io con una calligrafia molto elaborata, e, insomma, da una mano sapiente. E si vi saluta a voi valorosi, vi chiediamo in questo momento disperato il vostro aiuto. L'amore della mia vita, Irina Koliana, è stata afflitta da un male così mortale che anche le persone migliori del nostro villaggio non sono in grado di proteggerla. Oh. Lei soffre dalla sua ferita e voglio che la salviate da questa minaccia. C'è molta ricchezza nella mia comunità e offro tutto ciò che possiate desiderare. Mi sa così, guardi. E a chi alla buon'anima che risponderà a questa chiamata. Vi prego, giungete in fretta perché il suo tempo sta giungendo. Il suo tempo sta giungendo. Tu mi chiami Byron. Cioè, poi io ho il nome impronunciabile. Mi cazzo di scrivere. Vi darò tutto ciò che è il mio possesso. Come lo leggi? Come lo dici? Beh, qui direi che non c'è bisogno di altro per sapere il nostro destino, vero, compagni di viaggio? Ma non c'è nulla da uccidere. Beh, pare proprio di sì, invece. Ma la sta uccidendo. Sei malata. Beh, forse Bayern può curarla. Beh, l'esperienza ci insegna che ovunque noi andremo troveremo sicuramente dei pericoli da fronteggiare. Quindi probabilmente ci sarà anche qualcosa per cui. Quanto hai di carisma, scusa? 16. Giro punti ferita. 9. 14. Come 14? No, quella è la classe armatura. Cazzo, ah, ecco, 12 però. Quindi io 12. Paura, eh? 14. Cazzo, è 18 in costruzione. Che io ho 13. Beh, ho 16 comunque. Mettete tutto in saggezza, poi ignorate questa frase, mettete tutto in costituzione. No, no. Molto bene. 16. No, stavolta sono un guerriero serio. Ha detto che non è un guerriero destino. Ma mi sa che abbiamo un sacco di forza comunque. Io ho 16. Io ho 10. Tu hai? 16. Ah no, tu no invece. Io di proprio di. Vabbè, ci sta, allora non siamo abbastanza bilanciati. La lettera è fermata da Kolyan Idrinovic, borgomastro. E quindi è bulgaro come te, probabilmente. Ah, sì. È tuo vicino. Tutti i nomi bulgari. Allora Pavlovic. Sì, esatto. Anche il nano che vi ha consegnato la lettera era un nano. Nanismo. Aveva un forte accento dell'est quando parlava. Ma cioè, sì. Questo non è il mondo reale, quindi dell'est può essere qualsiasi accento. Quello, il corrispettivo est. Del nostro accento dell'est. Centro dell'est. E, me lo immagino tipo. Upu ulula. Lupo ulula. Bene, quando interrogate lo Sgorbio sulla provenienza di questo messaggio e dove andare per rispondere alla chiamata, vi spiega la strada e vi dice di recarvi nel regno di Barovia. Che sta un giorno di cammino da qui. Vuoi che lo mostri? Sì, mostri. Abbiamo mai sentito prima il regno di Barovia? Non penso. Aspetta. Però tu dici, ma sta solo un giorno da qua. Ma come? Più di un giorno. Aspetta. Tiro anche se le mie memorie non vanno più indietro di 4 anni fa. Sapete che è una splendida valle, ma anche nessuno di voi c'è mai stato. Ah, ok. Non tiro allora. Ma ci possiamo presentare prima di partire? Prego. No. Ci conoscevamo già, andiamo. Vabbè, ci presentiamo al pubblico. E anche quale stesso. Pubblico? Zitto. Ma che zitto? Vabbè, insomma, questa è la mappa. Cazzo. E vabbè, qua è venuto male. Aspetta però. Vabbè, c'è una parte. Della no, Barovia. Esatto, no, ecco io beh non sapevo bene come metterlo. Vabbè. Va bene. Vabbè, se volete vedere la mappa intera venite a trovarci. No, non capisco però perché. Vabbè, intanto potete presentarvi voi mentre io sistemo la cosa. E direi che possiamo saltare uno step. Va bene, io sono Vardistran. Cosa? Vardistran. E con la W però. Ah, pure. E posso chiamarti Ananas? Perché sì, Adelaide. Atanas. E no, sono Adelaide. Un paladino umano e ovviamente sono anch'io un po' spiritato e non ho ancora bevuto niente. Adesso vedrete alcuni dei miei difetti, ma sostanzialmente la base è che ho sempre viaggiato per combattere il male, per poter, diciamo, far sì che il bene prevalesse e per aiutare quelli che avevano bisogno a qualunque costo. Però sono avvenute alcune cose nella mia vita che mi hanno, diciamo, un po' turbato e in particolare ho aperto una volta questo manuale oscuro perché ero curioso. E però, il libro delle arti psioniche. Esatto, il libro delle arti psioniche mi ha turbato di brutto. E praticamente adesso vivo, cioè l'ho bruciato, poi dopo però mi è rimasto alcuni, lo so, però mi sono rimasti alcuni pensieri sbagliati e che ogni tanto mi perseguitano. E questo mi ha fatto creare anche un minimo di tic, infatti tipo dei miei rituali. Sono diventato un orologio. Che voglio sempre fare, se no è un casino. E ho paura perché, cioè non ho paura, però mi aspetto il pericolo dietro ogni angolo. Tipico di me. E poi c'è un bond che non mi ricordo, ma adesso andrò a vedere. E boh, più o meno io sono questa roba qua e basta. A voi. Adelaide. Io mi chiamo Ade. Adelaide. Ade. In vita precedente mi chiamavo Adene. non tanto tempo fa, ma purtroppo sono morto, ma qualcuno ha letteralmente raccolto un dito dal mio corpo e non so esattamente il viaggio che ha fatto questo dito, ma è arrivato a qualcuno con i poteri da potermi resuscitare. Ah, tanto non si capisce niente, ma anche guardarlo. Probabilmente aveva anche secondi fini questa persona, perché ha tentato di creare una sorta di ibrido fra un umano e una bestia, e sono venuto fuori io, che sono sì umano, ancora con il mio aspetto e tutto quanto, ma con degli istinti bestiali, diciamo così. Benvenuto. Grazie. Bentornato, anzi. Bentornato, sì. Per chi avesse seguito l'altra campagna, esatto, sono quello morto alla prima sessione. Ricicliamo personaggi. No, finalmente utilizziamo, forse dura più dell'altra volta. Chi lo può dire? Vai, Atanas, un tuo momento. Io sono un guerriero umano, non mi ricordo nulla che vada più indietro di 4 anni prima di adesso, in cui mi sono svegliato in un villaggio ricoperto di sangue dove tutti erano morti. L'unica cosa che ho trovato era un foglio con su scritto Atanas, per questo ho preso il nome, non è che mi ricordi come mi chiami. Quindi non c'è niente della tua vita? No. Cazzo, lo devo fare io questa cosa, così non devo raccontare niente. Ma quanti anni hai? Che cazzo ne sa? Vabbè, sale? Più o meno. Aspetta, se mi nasce raccontare. Ah, scusi. E la testa di una bambola di porcellana che porto con me. Ah sì, io non ho una, tipo una trentina, penso. Dall'aspetto... Ah, pensavo di teste di bambole. Dall'aspetto, sì. Ah, devo scegliere un 30. Cioè, tra i 25 e i 35. Okay, sì. No, ma in genere, okay, sì. Però... ben piazzato, combatte con due spade lunghe. E... è un tizio abbastanza incazzoso. E Spavaldo. Giulio. Classico personaggio di Giulio. Spavaldo, direi. Beh, no. Cioè, no, non Giulio, personaggio di Giulio, però. No, per i miei personaggi no, di solito sono... Cazzo bello, però, la chiave della crisi. Stanno indietro, non vanno... Beh, dai, tiro un'ultima volta. Ma sceglio, se ne puoi scegliere. Stai facendo dei tiri altissimi mai visti. Non so cos'è questo. Sì, cioè, mentre magari di solito gli avventurieri sono mossi da grandi ideali, lui semplicemente vuole uccidere mostri. E uccide chiunque si mette in mezzo. Mostri, però. No, chiunque. Cioè, chiunque si metta in mezzo, però il tuo ideale è uccidere i mostri del mondo. Di solito uccide il male, però, cioè, non si fa troppi problemi. Ok, ottimo. Infatti, allineamento a entrare malvagio, però. Fatto. io in questa, cioè, in questa serata ho un chierico nano che come background è stato, diciamo, cresciuto, rapito e cresciuto da una strega, è riuscito a scappare e adesso come obiettivo ha quello di combattere il male, uccidere i mostri dal mondo per proteggere i più giovani innocenti dalle cose che sono capitate a lui nell'infanzia, in pratica. Bello. Bene. Molto bene, benvenuti. Stavamo dicendo, la strada vi viene spiegata da questo simpatico personaggio, e se vi dice, se accetterete, partirete con lui domattina. Origliando i vostri discorsi, c'è una simpatica vecchietta, indossa dei vestiti di stracci e un foulard sulla testa e comincia di fianco a voi a ridacchiare. Che coraggiosi i nostri avventurieri, pensa, arriveranno fino alle lande di Barovia, ma non sanno ancora quello che li aspetta. Ma se vorranno, io sarò in grado di dargli una mano. Anticipando, sì, sta parlando a voi, mi parla in terza persona, rivelando per loro il futuro. Quali sono i tuoi problemi mentali, vecchia? Ormai ho perso il conto. Se volete, miei... No, beh, io ne ho, ma tu... I miei gentili signori, potrò... Lascio parlare agli anziani, per piacere. Potrò leggervi il vostro futuro in queste carte. in questo modo. Tutto questo per usare le carte. Fanno proprio parte delle strutture. Sì. Se non volete non le leggo. Parli, che... signora, ci dica quello che sì, ci no. intende. Non credo in queste cose, ma sono curioso. certo. La curiosità è pericolosa a volte, signor Ade. Come fa a sapere il nome? Come fa a sapere chi sono? Me l'hanno detto le carte. Si è sbagliato. Le carte, cos'altro le dicono su di me? Lo scoprirete presto. Vedete che posiziona 5 carte in questo modo. Non lo so, mi domanda. Devi decidere tu. No, non lo so se una volta che uno viene resuscitato. No. Cosa? Cosa no? Si cioè, non è che ti. Non hai il dito, no, non ce l'hai il dito. No, ce l'hai. Cioè, ce l'ho, se ti resuscito hai il dito. Ma no. Sta a lui decidere stare al cazzo. Mi manca l'indice destro. Chi se ne frega. Allora. con l'arco sono diventato abile nell'usarlo con l'indimento. Dispone queste 5 carte e comincia sollevando la prima. Dice: questa carta racconta. Perché una storia. Proprio quella la prima? Perché così c'è. Questa carta racconta una storia. La conoscenza dell'antico vi aiuterà per capire meglio il vostro nemico. La luna nera. La che? Commerciante. Cazzo, non c'è mica da mettere la telecamera. Guardate dal mago dei vini. Nel legno e nella sabbia si nasconde il tesoro. Sì, bravo. Segnati il. Cos'è che dobbiamo guardare nel legno e nella sabbia? Nel legno e nella sabbia. Nel legno e nella sabbia si annida il tesoro. Commerciante. Ah, ma questo interessa ai ladri, noi non siamo ladri. È vero. Sì, adesso devo segnare le carte che usciranno. Sì, nell'ordine in cui. Commerciante. Okay. Il commerciante, questo. Esatto. Ti parlavi di cera, ti ripeto. L'antica conoscenza. La seconda carta racconta di una forza incommensurabile, di bene e protezione, un simbolo sacro di grande speranza. Il traditore. Traditore! Cosa? Beh, cosa sta succedendo? Okay. Questo è un segno funesto. Perché c'è il traditore è il simbolo... È casuale la. Lei è sicura di saper leggere le carte così. Per fortuna non ci credo, altrimenti uno potrebbe pensare. Beh, meglio di quanto sui vostri visi. 9 di. Che cos'è questa cosa? Glifi. 9. Eccolo qua. Cercate per una donna ricca. Un'alleata del diavolo, ma tiene il tesoro sotto chiave con le ossa di un antico nemico. Poi l'ho provato tutti. La terza carta. Io cerco sempre donne ricche, ma non così per l'aide. È una carta di potere e di forza. Poi ti chiamerò l'aide. Racconta di una storia di vendetta, di una spada di luce. Azorai? No, il prete, questa già. No, il priest. E quello, ti ricordi quando abbiamo giocato la one shot dell'ospedale? Come si chiamava? Troverete il Vanis Gino, sì. Quello che cercate padre, nel castello. Padre O'Malley, no? Come si chiama? Vicino alle rovine. Di un personaggio è vero, bellissimo. Vicino alle rovine di un luogo di suppliche. Un giorno tornerà, padre mio. La quarta carta getta luce su chi vi aiuterà grandemente nella lotta contro l'oscurità. Il male. No, più o meno la bestia, fantastico. Non mi piace come si sta ponendo la cosa. È quello che stavo per dire prima, per forza. Questo cioè, è ciò che vi aiuterà il nostro più cosa, il nostro il grande nemico sarà un mercante. Saremmo aiutati dalla bestia. Dal traditore. Il traditore sarà la cosa per la giustizia, la spada della giustizia. Per fortuna non ci crediamo, vero? Quindi, ah sì, aspetta. Esatto. Il prete sarà la lama luminosa. Cos'è che è? La cosa più potente. La spada di luce. Spada di luce. Merda, difficile. Ciao, spada di luce. Sono live. Un lupo mannaro che tiene un odio segreto per il vostro nemico. Usate il suo odio a vostro vantaggio. Uff. Non c'è più un mannaro, sì. Uff. Il suo odio a vostro vantaggio. E finalmente l'ultima carta. Scopa. Il vostro nemico è una creatura di oscurità. Oh, il nemico. I suoi poteri. Sarà l'agnellino. Esatto. No. La vergine. Vanno oltre quelli dei mortali. Questa carta vi condurrà a lui. Oh, the broken one. Nice. Quindi questo sarebbe il nemico. Sì, lo specchio rotto. Cosa? Ok. E di cosa ci dice di lui? Peraltro, broken one. Lui si aggira intorno alla tomba dell'uomo che invidiò più di chiunque altro. La tomba, ok. La tizia tiene le ossa del nemico. Il prete cos'è che ci fa? Il prete l'arma. L'arma sì, però cos'è che ci ha detto? E ha detto che Priest. Fulmine di Pegaso. Troverete quello che cercate nel castello, vicino alle rovine di un luogo di suppliche. Ok, troviamo un luogo di supplica. Il lupo mannaro ci aiuta perché è nemico del nostro esatto. La tizia ci aiuta perché boa qualcosa di malvagia, però nasconde un tesoro. E vicino alle ossa del nemico. Con le ossa del nemico. E boh, vabbè. Ma tutti i nostri nemici. Molto bene. Vabbè, poi ce le ricorderai, Kat, spero. Beh, ve le siete segnate, spero. No. Giulio ha scritto cazzi, ma cazzo. No, ho scritto commerciante, traditore, sì, prete, bestia, poi me le vado a leggere. Invece di farti le cose sul tuo oggettino, potevi scriverle tu. Bene. No. Ma non benissimo. Giulio scrive le cose. Vedo. Scriviamo ste cose. Una buona parata di andando vicino al fratello. Devi prendere gol andando. Perché quest'anno non l'ho preso io. Quindi. Sti cazzi. Allora, vabbè, non c'è non puoi andare a spendere 24 milioni per il portiere. 5 per livello. Cosa? Sì. No, total number of hit points equal to your paladin level. Vabbè, posso fare 5 punti ferita. Esatto. Quante volte? Fino a che non cioè hai una riserva di 5 secondi da spendere, ma lei pure. Puoi scegliere una volta, quindi è inutile. No, aspetta, quello è Action Surge, è quello che ti cura. Da, ti cura. Action Surge ti cura. No, Second Wind. Second Wind è la cura. Sì, sì, mi ricordo. Ah, ok. Bene. Vabbè, quindi in realtà sì, è praticamente niente, cioè posso puoi curare una volta. Ma non solo a te, anche agli altri. Sì. Hai 5 punti sì. Da curare. Sì, è poco, è ovvio. Partite all'indomani per le terre di Barovia. Barovia. Quindi esatto. È un giorno di cammino. È X. Ah, non l'ha detto. Non l'ha detto. Ma è vicino alla Tveria per caso, no? Man mano che il percorso prosegue, notate un incupirsi del paesaggio intorno a voi. Ecco la Barovia. Gli alberi diventano sempre più contorti e malati. Il terreno è incolto. Dove siamo, scusami? A destra. Arrivate da destra. Sembra proprio un bel posto. A destra. E soprattutto la nebbia. Cioè, partiamo da, scusami, l'angolo a destra. La stradina. Lì ci stati ancora. A destra. Qui dobbiamo arrivare al villaggio di Barovia. Mi hai detto, tu Barovia è la... Cioè la sì, però c'è un posto che si chiama Village of Barovia. È plausibile che sia quello. Penso mi ricordava un altro nome, però. Devi cioè, dimmelo. Sì, sì. Da dove partiamo? Noi arriviamo da destra. Vedi che c'è la stradina? A destra. Old Road, qualcosa del genere. Aspetta. Vabbè, comunque stiamo camminando e il sentiero si fa più contorto, gli alberi secchi. Esatto. E vi dicevo, man mano che proseguite, venite avvolti da questa nebbia pesantissima. Va bene, puoi dirlo. Che vi entra nei polmoni. Non riesco anche a vincerla. E si insinua nelle vostre articolazioni, tanto da rendere a tratti difficile il respiro. Grazie comunque alla vostra abile guida, Mignon, proseguite lungo la strada, non asfaltata ma lastricata. Posso fare solo una domanda? Cioè, gli chiedo al nostro servitore qual è il male che affligge questa... cioè, se lui lo sa, questa donna. Il padrone vi dirà tutto, non sono pagato per questo. La gobba. Sei pagato? Ma sei un padrone. Hai detto una domanda, non... Alla gobba? Sì, alla gobba veramente? Ha un... Quale gobba? Ha un mantello nero? No, ha abiti sgargianti. Ah, ok. I colori buffi. E uno che è chiuso in una smorfia e l'altro molto aperto. come si chiama questo signore? Ci ha detto il nome? No. Scusi, come si chiama? Per caso si chiama così? Te lo dico subito. Igor? Si chiama... Arrigal. Bello. Io carico la balestra e gliela punto dietro senza farmi vedere. Just in case. Chissà qualcuno se ha delle conoscenze, ma religion? No, di etnie in realtà. Beh, possiamo fare un tiro però. Vabbè. O no? Voi avete sentito parlare di questa gente di cui lui fa parte, che sono i Vistani. Sono Vistani. Sostanzialmente degli zingari. Ah, beh, sì, certo. Questo è un po' razzista, c'era... Beh, scusa. L'accento dell'est, zingari, è brutto, Io non so chi ci sta seguendo, però... Nessuno. Stringo più forte a me... C'è qualche zingaro di me... Stringo più forte a me il borsello. Che non ho, che è vuoto, però... Che è vuoto? Vabbè, è posto allora. Ci porti. Che vuoto? Ladro! Comunque vi dice che lui serve il borgomastro Kolyan Idronovic. E vi sta portando da lui. E, Ci sono dei commenti, rispondiamo. Chiede qualcuno se stiamo giocando a Ravenloft. Eh no. Sì, chi è che lo chiede? Sì. Luca Vibrante. Stiamo giocando a Ravenloft. Lo conosce? Comunque sì, è la nuova avventura di... Provo a rispondere, se riesco. Salutiamo il nostro pubblico. Quindi è Ravenloft, effettivamente. L'ambientazione è quella di Ravenloft. Mi piace che le sparate tu adesso. Boh, può essere. È arrivata una scia di pollicioni. Bene. Descrive appunto una volta che giungete questa valle come una dei posti più belli di questa terra. Invece non era dono del creato. E insomma, ha delle opinioni discutibili. Ma si vede che c'è molto. Non siamo a cavallo, siamo a piedi. Siete a piedi. Te la provavo a dire fra Blucher. La strada. Ma il nano è a piedi. Siete tutti a piedi. Ma il nano è un nano. Vabbè. Si zampetta molto velocemente. Ma lui è il nano. Sì, ma già lui è più grande del nano. Che cosa, cioè, è un allora, nano. Prima siamo la stessa verso gli slavi, adesso ce l'abbiamo con i nani, ma cos'è? Vi richiamo all'ordine. Cioè, te lo immagini fare sto qui, fare, che ne so, decine di chilometri, tipo così. Ok, in effetti, non è tutti te. Vabbè, lo prendiamo in braccio a turno. È un certo punto. Porta sfiga. Smette bruscamente di parlare. Posso baciare la gomma? Guardandosi intorno dice, ci dobbiamo sbrigare. Aumenta il passo. T'ha sentito? Vedevo un passo mio con 25 suoi. Mentre fa questo, vedete che il cielo di questa terra, che non avete mai visto sgombro da nubi cupe. Ma la direzione che abbiamo, cioè la strada che abbiamo fatto per arrivare fino qui, è una direzione che nessuno di noi aveva mai preso, e quindi ci sta che nessuno di noi è mai venuto qui, o è strano che qua ci sia una cosa che nessuno di noi ha mai visto? No, nessuno di noi era mai venuto qua. Ok. Cioè, non è che ha tipo sostituito una zona? No. Oh, io di posto in merda ne ho visti, non ho visto. Perché stai guardando qua? Stavo dicendo, il cielo non l'avete mai visto. Mi sto medesimando. Sgombro da nubi, anche gli stessi colori sembrano più tenui rispetto al normale. Instagram. Proprio come se fosse un filtro. Anche gli utilizzatori anche gli utilizzatori della magia percepiscono che c'è qualcosa di diverso rispetto al solito. Ancora non c'ho. Quindi per me io è normale. Sento che sentirò qualcosa, tipo. La nebbia si fa via via più fitta. La taglio con la spada. Potresti farlo, tanto è densa. La taglio con la spada. Ormai il vostro del vostro della vostra guida sentite solo la voce e ma come il rumore si chiama dei lui? Passi. Arrigal. Arrigal. Aspettaci. Non possiamo legare una corda. Seguitemi. Aspettaci. Se lo trovassi. Devo fare il mio passo della nebbia. Uno, due. La nebbia, mettersela dietro. Ma tra di noi ci vediamo. No, tra di voi a malapena. Vedete delle ombre, forse siete sono i vostri compagni. E bagaglio io stupido invece. Sentite solo. Arrigal, torna indietro, non ti vediamo. La sua voce. Arrigal, muovi il culo che stiamo avanti. E per me è indietro, cazzo. E se non fosse per il sentiero di pietre la steccata. Ti rispondi, aspettateci con quello davanti a noi. E per se facciamo noi. Continuate così dopo per qualche ora a brancolare nella nebbia. Quando c'è ma abbiamo un feedback da Nanetto o l'abbiamo perso? Dopo un po' l'ho perdete. Ma di merda. Quando la nebbia si riapre. Siamo ormai tipo a Ferrara, quindi esatto. I banchi di nebbia. No, tipici. Che brutto posto. Siete in vista di no. Qualche casa. Beh, infatti è un horror. Esatto. Qua invece dei vampiri ci sono le zanzare, però è ok. Cominciate la salva di qualche abitazione. C'è una strada che va e i primi locali che incrociate sono un bar. No, non quello che... c'era un bar ma sono tutti chiusi e abbandonati. Bar chiamato però siamo in un villaggio, se non altro. Se la nebbia non ci fosse probabilmente c'è qualcuno? Ci sarebbero altre case. Uno. La strada dritta davanti a voi è deserta. E appunto la palestra davanti a me. Se non per la presenza non niente. Di due piccole figure. E dalla lontananza vi arrivano i lamenti di un bambino piccolo. E una bambina più grande di lui, di qualche anno. Che cerca di consolarlo e di fargli smettere di piangere. Mi avvicino a loro. Mi leggo i baffi. No, scusa. Metto via la palestra e strago la spada. La prima cosa che fare quando vedi i bambini. Sono perché un sono po' di rispetto, rischi. Atanas, e mi avvicino perché ai sono bambini. Piccoli e rischi di non prenderli. Invece con la spada vai tranquillo. È rispetto, cioè ho estratto le spade. Guarda come muore il mio primo PG. Mentre vi avvicinate, passate in mezzo a queste case grigie e alte. Ma c'è nessuno? Quasi a sembrare delle lampi. No, quando passiamo vicino alle case, dico. Sono chiuse e abbandonate. Case chiuse sono? Cioè pure, c'era pure una taverna, che sentiamo ma anche quella è abbandonata, chiusa, sprangata. Io mi avvicino ai piccoli e gli dico: piccoli, è pericoloso qua fuori, dov'è la vostra mamma? Era buona. Di 7 anni. Vieni a giocare per darvi un'idea, il piccolo ha 7 anni, la grande invece circa una decina. E già in età da marito ormai. Sono buoni i cuccioli da mangiare. La bambina finisce di consolare il ragazzino. Consumare. E si gira verso di te e ti dice con voce disperata: c'è un mostro nella casa. Dietro di lei vedete questa casa a tre piani. Aspetta, ma è casa tua? Gira. Aspetta. Ah, una casa normale. Ma okay. L'aveva stampato. Di... Ah, scusami, no, mattone. Vabbè, qua. Scusa, no, vabbè. È casa tua? E indica appunto quando dice c'è un mostro in casa. Okay, intuito che e indica questa alta casa di mattoni che ha visto giorni migliori. Le sue finestre sono buie e c'è un portico con un cancello. Poi io faccio un insight, così è arrugginito e appena leggermente aperto. Le case su entrambi i lati sono abbandonate e le loro finestre sono sprangate con delle assi. Bello, se un po' vederla anche lì. Faccio un insight, a cazzo. Io intanto le chiedo, perché non provi a descrivermi il mostro? 14. Non so che cosa... 16. Che aspetto abbia il mostro? Non l'abbiamo mai visto. E come fai a sapere che c'è? Ma emette delle grida terribili. Spaventose. Wow, che e che cosa sembra? Non hai mai sentito niente di simile? Degli ululati nella notte. Come dei lupi? Non è niente che io abbia mai sentito prima. Ho solo 10 anni, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Intanto ne hai 12. No. I nostri genitori. Il mio 16 in insight. Cosa vuoi sapere? Sì, sembrano. È visibilmente. Cioè, è una bambina, perché ti dovrebbe mentire. Ma che cazzo, insomma. Però insomma, quello che dice è vero, non l'ha mai visto, ma si sentono. Siete da soli. Gli ululati. Ma quindi state piangendo per gli ululati? Sì, non sono dei bambini. Abbiamo tanta paura, signore. Non vi preoccupate. No. Scusate. Cosa no? Cosa no? Dove? I nostri genitori. Tra l'altro, io tra le cose background ho. Io non ho compassione per i morti, loro sono i fortunati, quindi... Anch'io. Ma fino a prova contraria sono via. Era uno di quelli che volevo scegliere. Volete diventare fortunati? No, io dico... Io dispenso fortuna. Qui è pericoloso. Dov'è la vostra casa? Vi riaccompagneremo. Quella che c'è... Perché non stai a sentire? Ah, quella è la loro casa. Guarda, allora, cazzo. E ti stanno dicendo... I babbo e mamma li tengono rinchiusi nel seminterrato. Come si chiama vostro padre? Cioè babbo e mamma tengono rinchiusi i mostri nel seminterrato? Sì, per proteggerci, ma sì, gli urli si sentono lo stesso e noi siamo spaventati. E dove sono i tuoi genitori? I vostri genitori? Non lo sappiamo, da un po' che non li vediamo. Un po' quanto? Non lo sappiamo. Ma quindi questa sto perdendo veramente la pazienza. Quella lì è la loro casa. I genitori si chiamano Gustav ed Elisabeth Durst. No, che non c'entra niente. Beh, me l'hai chiesto. No, ci sta. No, pensavo magari fosse le cose del borgomastro. Dico. Posto. No, non è il borgomastro. Posto. E, va bene. Allora, prima cosa dobbiamo mettere al sicuro questi piccoli bambini. Mm-hmm. C'è un altro bambino nel terzo piano. È tuo fratello? Beh, il suo terzo piano è un po'. Non l'ho mai visto. Ma come non l'hai mai visto l'altro bambino? Cioè, pensiamo intanto a voi che siete qui e insomma. Si sentono però i pianti. Che. C'è un altro bambino in casa tua che non hai mai visto. Sì. Satanas, un po' di. Magari non lo fanno troppo. Sono dei bambini, sono. Beh, è demente, cioè se è demente. Cioè. Magari non lo fanno troppo. Noi non vogliamo tornare a casa finché il mostro. No, ma infatti non dovreste. No. Se voi intanto volete entrare, ci penso io ai bambini. Cioè. Mi sembra un'ottima idea. Posso portarla al sicuro io mentre voi entrate in casa. Tipo la bava alla bocca. Ma quindi sono tutte chiuse genere. Queste case? Quelle di fianco, sì. Tutte. E gli altri abitanti del villaggio? Non lo so. Comunque il mio personaggio lo dice davvero. Non è una gag che mi scappa da ridere a me, ma il mio personaggio dice: se volete intanto entrare a vedere, io posso portarli al sicuro. Sì. Ecco chi muore per primo. Il bambino, non possiamo lasciare da solo. Tipo perché ferito, io rimango sempre da solo e muoio. Voglio ogni cazzo di campagna. Spaventato. Ok, prendo il rinfodero una spada. Questo è tanto rispetto, eh. E inizio a tipo, guardare attentamente il bambino. Tagli la bambola con cui giocare per tranquillizzare. Va bene. Ade. Sì, vabbè, cioè... Ah, ok, aspetta, forse non... No, cioè, ho cambiato idea. Esatto, pensavamo fosse... Più creepy di così? Super creepy. Aspetta. Va bene. Ok, gli taglio la testa. No, fermo. Vabbè, diciamo che anch'io... Vabbè, se taglia la testa, tira l'iniziativa, io non posso permettere. Vabbè, ho capito, ma li hai visti. Dai. Vabbè, anch'io la cosa di difendere i bambini, ma che sono no, ok, bambini? A me fanno la cosa di difendere i bambini. A me fanno un po' paura. Ok, però... vedi che io con l'altra mano è lì che sta. Ho capito. Cioè, dai. Non ti preoccupare. Cosa ci ma... penserà Adi a loro. Ok, posso detto, no, ormai ti sei offerto Ade ed è stato molto nobile da parte tua. Noi lo apprezziamo. Oddio. Boh, comunque... Atanas. Noi entriamo. Bayern, come ti chiami? Farò un perception. Andiamo a salvare il mio terzo piano. 19. Cosa sta facendo? Sto studiando sto bambino perché non mi convince. Bambino ha una bambola che tiene. Anch'io. E le sue, il suo sguardo è come dire spento, non è, vabbè, ritratto, ha perso così col cazzo che mio primo di stato solo con loro, no è come se avesse perso ogni volontà di vivere e ogni luce di speranza. Gli sto facendo un favore, ha perso ogni volontà di vivere e luce di speranza, cioè vedete. Aspetta, gli stacco la testa, vedete. Se no li portiamo dai loro genitori. Li portiamo con noi. È pericoloso lì dentro. Beh, ha detto che ti fai. Vabbè, allora loro, Ade. Provo di portarli in un posto sicuro. Se in un posto sicuro posso chiaramente. La nebbia si sta sempre più avvicinando intorno a voi, stringendovi intorno alla casa. Faccio un detect magic sui bambini. Ok. Devo tirare? Devi lanciarli. No, ci sono l'incantesimo. No, è lanciato. E c'è una però io potentissima. Che viene dalla casa. C'è un... Solo dalla casa, un'aura bambinissima nulla. Che viene emanata. Quindi si vede tipo... Allora io uso. Aspetta un secondo. Si vede il chierico così. It's over 9000. Vai, io uso. Sui bambini niente. Devo comprare una cosa. Ok. Lo dici questa cosa? Sì. Ok. Io quando tu dici questo uso il mio divine sense. Per trovare la presenza di... Che entro 60 piedi da me, è un'azione, fino alla fine del prossimo turno sai il posto, cioè dove si trovano tutti i celestiali, i fiend, che sono i demoni e gli i non morti, entro 60 piedi da me, che non sono dietro totale copertura. Non ci sono in... Non morti senza copertura o altre cosacce. Ok. Sono usciti vestiti e politici. Aspetta. Con lo stem radio. Manca 3 minuti. E anche però vedo ogni oggetto o posto che è stato consacrato o sconsacrato come l'allo spell. Non è la stessa cosa, però capisci che c'è veramente tanta sconsacrazione in questa casa. Quindi non possiamo portare i bambini, però i bambini sono a posto. I bambini no, non stanno morendo, ma quindi parliamo di maledizione. Non sono un demone, però è la magia da loro. Cioè parliamo di maledizione alla casa. Una casa, cioè, questo luogo è stato sconsacrato. Sì, esatto. Cioè, è stato teatro di atti maledizione. Maestro. Questa è casa e hanno detto che noi l'aiuto lo troveremo nel luogo consacrato, quindi io direi di andare da mio fratellino. Esatto. Sette. Dai, ma a costo della mia vita è così. Rega, ma perché non riprendiamo la taverna e facciamo un'attività bipolare? Cioè, in 10 anni voi siete sempre stati in casa, non avete mai incontrato nessuno. Almeno i vostri genitori sapete che faccia abbiano. ti dicono il babbo si chiama Gustav e la mamma sono si chiama sì, sì, no, ma li avete mai visti? Se sì, non abbiamo visti, ma è da tanto che non li vediamo. Hanno la pelle come la vostra? Da tanto, almeno tre giorni. Comunque, io gli chiedo seriamente se anche i romanzi non arriva niente. Allora non arriva amici. Niente. Non si vede più nessuno intorno alla casa da tanto tempo. Anche tre giorni? Una luna. Una luna. Anche i vostri genitori sono blu. Sì. Glielo chiedo sul serio. Vabbè, cazzo, sono blu. C'è chi ha la pelle gialla, che ha la pelle nera, che ha la pelle blu. E per te è tutto uguale? I baroviani. Va bene, va bene. I baroviani sono blu. Vabbè, bruciamo la casa. La nebbia si fa sempre più. Ok, bambini, non avete nessun posto, nessun conoscente da dove andare? Vi possiamo aspettare qui? Qua non sembra essere sicuro per voi. No, rimane lui. Se arriva la nebbia dobbiamo entrare. Dove li porto? Nella nebbia io mi perdo, non so dove andare. Stai con loro. Ci portiamo con loro? Se portiamo noi? Se c'è la nebbia io non so dove andare, qua ci perdiamo. Ok, va bene. Sembra essere l'unica soluzione, a meno che tu, Ade, non abbia un'altra alternativa. Non ci vogliamo avvicinare alla casa. Non so dove. Mm-hmm. Giustamente. Sì, prendo. C'è una casetta in giardino. Prendo, prendo il ragazzino. Tipo così. E entro. Si mette a strillare. Sti cazzi. No, aspetta, dai, dove vai? Entriamo, no? Vabbè, aspetta. Mettiamoli. Dai, veloce. Mettiamoli in una casa io, di queste. Io per la loro sicurezza. Sono chiuse le case. Io per la. Sfondiamo. Io entriamo. Per la loro sicurezza li legherei. Per la loro sicurezza. Vabbè, aspetta, di fianco c'è tipo un quella che posso pensare sia una taverna. Due case, la prima. Vabbè, una casa qualunque, va bene. Vabbè, non voglio entrare dentro ci una casa. Sono due case completamente serrate ai fianchi di questa casa. Okay. E ormai però la nebbia sta circondando voi e la casa. Quindi non si riesce più a passare? Cioè se vado dentro la nebbia non vedo più niente? Puoi provarci. Abbiamo una corda, aspetta, abbiamo una corda per legarci. Abbiamo tutti una corda, ogni zaino ha della corda. Leghiamoci tra di noi. Sì. Ci leghiamo tra di noi in fila. E tu entri nella nebbia. Aspetta, anche i bambini li leghiamo a noi. I bambini, uno ce lo devo sulle spalle. I bambini li teniamo per mano o addosso, non me li leggo addosso. Sì, voglio portarli in una taverna e lasciarli lì. Vabbè, rifodero anche l'altra spada e carico anche perché la bambina sulla casa spalla. Più vicino. Perché sono legale, non voglio entrare dentro una casa. Ma sono casa. Abbandonate, no, le case? Devo fare athletics per caricarmi i bambini. Sono sbarrate e sprangate da fuori. Devo fare athletics per caricarmi i bambini sulle spalle. Vabbè, ci siamo legati, quindi? Sì, vi siete legati. Ok, io entro nella nebbia. E quindi tutti noi siamo legati. Tu entri nella nebbia. No, vabbè, la corda un po' di gioco. Dopo 6 secondi fai un tiro salvezza sulla costituzione. Perfetto. Aspetta che ti vado a stampare l'altra scheda intanto. 14 più costituzione 2, 16. Hai un livello di esaurimento, esaustione. Minchia. Vabbè, entriamo. Capito. Quindi sono già a pezzi. Cosa mi dà l'esaustione? È quella che ti dà adesso svantaggio fin nei tiri. Oh, poi. Prendo un bambino, lo sporgo dentro la nebbia. Lo puoi fare. E lo ritiro per vedere cosa. Ok. E adesso ci guardo. E intanto esco dalla nebbia allora. E gli dico agli altri. Qui c'è qualcosa di molto oscuro. Vabbè, entriamo nella casa. Per forza, non di fatto ti soffoca come se fossi. Oscuro. Voi due dovete venire con noi. No, non vogliamo entrare nella casa. Cioè io sulle non spalle. Non abbiate paura, faccio un persuasion ai bambini. 9 più 5, 14. Vi aspetteremo nel portico. Ma no, ce li ho sulle spalle. Allora faccio un athletics ai bambini. Ok, quindi entrate nella casa? Con sì. I bambini però. Ci hai tutti e due con il braccio? Allora. C'è uno sulla spalla, tipo sacchi di patate. Quanto mi dura sta roba dell'esaustione? Finché non fai un riposo lungo. La porta è aperta. Rega riposo? No? Rega farei un riposo io. Come si dice? C'è un vantaggio dei tiri quindi. Il cancello non è chiuso a chiave e le sue. La grata arrugginita che lo compone gigola mentre viene aperta. No, c'è una lampada d'olio che pendola da delle catene. Una casa da tre piani, quindi svantaggio, vabbè. cioè per vivere in una casa a tre piani e essere la loro casa, sì, la loro famiglia dovrebbe essere ricca, sì, benestante, probabilmente lo è. Cioè i vestiti che hanno addosso sono abbastanza pregiati, sono blu però. C'è una lampada d'olio che penzola dal soffitto attaccata a una catena. Prendo la lampada e brucio la casa con noi dentro. Ma che personaggio è il tuo, esattamente? Un po' masochista e... arrivo lì, distruggere... scusa, te l'ho detto. Cioè come tratto di personalità che non fugge dal male, è il male che fugge da lui. Ok. Solo l'applausi, vezzo. Dietro l'entrata vai nel... Un altro, sono un mostro. Grazie. Che distrugge altri mostri e non importa se qualcuno si mette in mezzo. E questi sono, vai nella pianta in basso a sinistra, vezzo. Sono bambini. No, sono un mostro che distrugge altri mostri e non mi frega un cazzo se qualcuno si mette in mezzo. Nella mappa della casa? Questi bambini si possono... Ci sono le quattro mappe in basso a sinistra. No, non hai capito. Sono un mostro che distrugge altri mostri, ma non mi interessa se qualcuno si mette in mezzo, qualsiasi persona sia. Io dico, questi bambini sono mostri. Ma anche non fossero mostri. Su questo. Su quello in basso a sinistra. Cioè, se non mi interessa chi si mette in mezzo, significa che... Ecco. Allora, entrate in basso a sinistra. Troppo zoom. No, va bene. Così, va bene? Così va bene. Quello in basso a sinistra. Esatto. Quindi siamo nel nel ladrone. Ma quella è la casa o la piscina? No. Non guardare quello. C'è cioè blu. Insomma, non siamo lì. Non lo vedo nuovi telespettatori. Vabbè, c'è una piscina telespettatori. Quindi noi siamo proprio nella stanza più in basso a sinistra di tutte. Quello è l'ingresso, giusto? Quello è l'ingresso e quello è entrate da sotto. Okay. Vedi che c'è l'entrata. Sì. E, pendente dal muro a sud c'è uno scudo con un... mio. Un simbolo, uno scudo, come si dice, come forma di, non mi viene il nome, come si chiamano, il blasone, sì. Il coat of arms, il coat of arms, sì, esatto, ma in italiano non lo so dire, vessillo, bravo, un inspiration, sì, sì, e il simbolo di questa famiglia è un mulino a vento in campo rosso. Posso fare un tiro per vedere se mi mette qualcosa? No. Questo è il mio simbolo. Non poi la testa alla bambolina. Posso farlo? Un mulino in effetti. Sei. Devo scegliermi la divinità. Davanti a voi ci sono una doppia porta di legno di mogano. Che... Come, scusa? Uno... Davanti a voi c'è una doppia porta di legno di mogano. Posso appoggiare l'orecchio. Quindi aspetta, adesso siamo entrati qua a sinistra, mi hai detto... Non vedo il cursore, dov'è? Vabbè, te lo posso vedere qua. Sì, lì. Cioè, qui siete lì davanti. Qui. Mm-hmm. E questo qua, questo di Mogano. Esatto. Quindi siamo praticamente nell'atrio prima del... ingresso. Il pre-ingresso, tipo. Apro con un calcio la porta. Aspetta, ho appoggiato l'orecchio alla porta. Mentre lui... ma potrebbe esserci qualunque cosa lì dietro. No. Senti il rumore di un calcio. La porta si apre. Quindi ci sono io con la porta che si apre. Io così, okay. Io avrei tirato un calcio a lui. Così. Probabilmente un po'. Entrate appunto nell'ingresso. Io prima di entrare guardo tipo. Che poi non hai neanche provato se con la maniglia si apriva. C'ho i bambini in braccio. Mi faccio tipo. Faccio così, tipo. Prendo un po' di polvere, me la lancio dietro. Okay. Cosa fai? Faccio i miei riti, cioè, per... cioè, io in pratica faccio ero così. Dopo galletto per entrare, poi indietro. Io in pratica ero così, entro, no, calcio alla porta. Sì, giusto. Ragazzi, qui, come ogni inizio di avventura, facciamo i nostri battimani, mi raccomando. Che cazzo fai? No, è importante. Non me li ricordo i battimani. È importante. Ti conosco da qualche anno, ma non me li ricordo. È importante, importante. Va bene. Dai, fallo per lui, lo sai che poverino. Cerco di convincere tutti a fare i battimani prima di entrare. Hai due bambini sulle spalle, come cazzo battimani? Anche i bambini. Vabbè. Li lancio un attimo. E cadono, se devo chiedere. No, vabbè, faccio così e... Allora. E continuano a urlare, immagino, i bambini. Faccio così e tu devi battere le mani. Va bene. Nel momento in cui varcate la soglia, i bambini spariscono. What? Vabbè, e la porta si chiude, non possiamo uscire. No, ma c'è la nebbia proprio fuori dal... Cioè, sono scomparsi dalle spalle di Giulio. Puff. Non ci sono più. No way. Oh. Estraggo le spade. Magari erano buone. Esco dai bambini. Ti ammazzo. Non saprò mai se erano buone. Il soffitto di questo piano. Se tengo la porta aperta, la regge. Cosa ci vuole di quello a scoprirlo? Vabbè, mi metto dietro la porta, vedo se entra un pochino e poi chiudo in casa. Non ti sembra che entri se fai così? La nebbia, dici? Ma quindi la porta si può riaprire? Sì. Ah, però c'è la nebbia. I soffitti di questo piano sono alti 10 piedi. Adesso siamo in questa stanza qua, vero Kata? Non ci sono luci. Cioè è buio. C'è la luce naturale. Ma che però in questa zona, in questo paese, a quanto pare molto molto fiocco. Vabbè, accendiamo una torcia. Avete la torcia? Sì. C'è una lampada d'olio da qualche parte. Appesa al pendola dal soffitto attaccata alla catena. Prima della porta che è aperta. Di lampadari. Però c'è anche ancora dentro la casa. Sì, sì, c'è. Sono illuminate. Non adesso. Non puoi staccare la lampada dal soffitto. Se arrivo la stacco. Ci sono delle torce. Può provare a staccare la lampada dal soffitto. Ma avete le torce, raga? È uguale. Si consumano le torce. Vai, prendi. Sì, puoi prendere una torcia che c'è. No, no, la lampada voleva staccare dal soffitto. Ci arriviamo. Vabbè, prendo una cosa e la brucio. Ma casa è la brucia. Oh, cazzo, è un bambino. Ma perché te l'aveva sbagliato? Ecco dov'era il bambino. Non c'è polvere né segni di invecchiamento. Però mi hai detto che i bambini non erano magici. Adesso sono spariti. Tanto. Hai detto che arrivava la magia dalla casa. E la carta da parati sembra nuova, non è ancora sciupata. I mobili sembrano sì, nuovi. Davanti a voi c'è un'altra doppia porta di legno di Morgan. Vai, Atanas, è tutta tua. Non vuoi ascoltare quello bello? Secondo me dietro. Guardo Atanas e do un calcio alla porta. Non c'era il trappolo. No, calcola che io ho forza 10, quindi non so, potrei anche fare la figuraccia del tutto. Ragazzi, non scherziamo, qua potrebbe esserci qualunque cosa qua dietro. Tipo i momenti di panico. La mamma del bambino. La hall principale. Prego, ogni tanto fai la voce di entrate ragazzi. In una grande sala. Ragazzi, è larga come la casa. Chi ha la torcia? E c'è sulla vostra sinistra un camino di marmo rosso. Mm-hmm. No, scusa, il camino è di marmo nero. Bello. E dall'altra parte. Ma quindi siamo nella sala di marmo rosso. Scala. Sì. Esatto, dall'altra parte appunto c'è. Raga, non possiamo vivere qui, è bello. Scala una scala di marmo rosso. Raga, viviamo qui, è bella. E è il cliché dei film horror. Montato sul muro dove è il cliché delle rappresentazioni teatrali horror con un scolpito un mulino a vento nell'elsa sopra il camino. Prendila, è per te. E prendo la spada lunga, sì. Segnati la spada lunga. Un'altra spada lunga, sono piene spade lunghe. Con una non si ruba in casa da altri. Io anche scoppio a ridere che non riesco a tenerli. È un prestito. Lascio delle monete. Pareti di legno che non ho. Sono decorate con figure scolpite di immagini di vigne floreali, di ninfe, di satiri. Spada lunga con un mulino in mulino disegnato. Incastonato. Cioè no, scolpito. Sono immagini scolpite direttamente queste che stai dicendo nella ornate nella parete, ci sono, che ornano la parete, ci sono queste immagini. Se le troviamo un proprietario gliela ridò. Fammi un perception. Io Stai osservando le immagini. 5. Vedi che scolpiti nel legno vedi il legno. Ci sono dei disegni di serpenti e teschi. Bello. A me piace. E questi disegni decorativi seguono le scale che vanno a fine, al secondo piano. Si può accendere il camino. Non c'è legna, ma si trova della legna, sì. I mobili. Le porte di Mogano. Facciamo una grigliata. In quel bugigattolo che vedete lì al centro. C'è la clock room, il sgabuzzino. No, è dove metti le... l'armadio dove appendi gli abiti. Il... Ah, guardaroba. Possiamo prendere degli abiti. No, vabbè, non sono appendi abiti. La stanza appendi abiti. C'è un quadratino piccolino. Ha diverse mantelle nere. Ok, prendo le mantelle nere, le butto nel camino, ci metto... C'è una poltrona o qualcosa di legno. Ma qualcuno lo fa? Cosa sta facendo? Vuole accendere il camino. Perché vuoi accendere il camino? Fa freddo. Fa freddo? Ma ok, concentriamoci su, su... Fa sempre freddo qui, quindi ci sta dicendo... Il... Parli tu che hai il cellulare in mano, concentriamoci. Non nel gioco. Sono o lo spadone. No, se fa freddo ci sta, accendiamo. No, potremmo... Potremmo, cioè... Non sai cosa c'è nel camino intanto? Appunto! Non sai cosa c'è sopra il camino? Non c'è niente. Ma intanto io do fuoco, poi ci siamo. No, potremmo attirare l'attenzione. Cerchiamo di c'è stare. La nebbia fuori, tanto mica si vede. Ma perché dobbiamo accendere il camino? Cerchiamo accende, di capire. Atanas accende. Bene. Oltre alla... La democrazia vince. Ma cosa stai? Oltre alla scala c'è... Dove accende il fuoco nel camino. C'è una... appunto, la stanza che vedete... Ah, quante mantelle ci sono? Una decina. E un cappello. Ma chi è il ladro qui? Ma non le voglio. Una mantella la prendo io. Ma sono tutte... Una mantella, nera. Tutte della stessa misura, stessa taglia. Più o meno sì, non c'è una grande differenza. Peccato. Beh, le brucio con ma c'è la scala, no? Che va su. C'è la scala che va su. Una porta che è della stessa parte dove siete andati voi, come potete vedere lì. Una almeno mi va e bene. E poi due che vanno in altre stanze. Dritto davanti a voi e... in fondo a destra. Ok, vado da una porta e faccio perception con... non so se riesco a vedere. Quale porta fai? Allora, vado la prima che incontro, questa qua davanti. Quella di fianco a te. Giusto? Ah no, davanti, vai davanti. Io la mantella la indosso nel frattempo. Io te la prendo. Ok. Faccio un perception. Lo prendo. Non so se si posso vedere da una toppa o se no vado ascolto. Okay. Lo metti la lama. Puoi vedere... Svantaggio faccio 11. C'è un disadvantage di ability checks. Questa stanza è ricoperta di legno alle pareti e per terra. Okay, detto questo. E c'è un tavolo intagliato in mogano e con 8 sedie intorno a questo. Ma quindi riesco a vedere dalla toppa e vedo che non c'è nessuno dentro. Non c'è nessuno dentro. Ok, allora apro. E c'è dipende da che porta stavi guardando. Sto guardando questa porta. C'è un candeliere di cristallo sopra la tavola. Sì. E che la tavola è coperta con argenteria e posate. Sono entrato. E calici di cristallo. Sopra un altro camino che vedi a sinistra. Sì. E sì. C'è un dipinto di una valle alpina con una cornice di mogano. Mi sembra una casa molto sfarziosa. Sì, molto sfarziosa. Però sì, effettivamente. Ma ascolta, le scale invece salgono. Aspetta solo un secondo. Sì. Un attimo. Scusa, secondo piano. In questa tavola non è imbandita, però non ci sono resti di. Cioè, mi sembra che qua non ci sia nessuno da un po', in realtà. Oppure ho la sensazione che qualcuno magari ci abbia. Cioè, questa è un tipo... È apparecchiata, ma diciamo non è che ci sono dei resti di un cioè, pranzo. Cioè, questa è una sala da pranzo, però non c'è... Le candele? Insomma, le scale ha detto che vanno su, ma i bambini avevano detto che i mostri erano sotterranei. Mm-hmm. E il sotterraneo dov'è? Ancora non lo sappiamo. Le ci candele? Sono... Cosa hanno le candele? Per sapere il discorso del quanto tempo qualcuno è stato qui, ci sono delle candele consumate più o sono meno? Sono a metà. Spente? Sì. Posso intuire, fare un tiro su voi di forse sopravvivenza per sapere da quanto magari si sono spente, se sono spente da Come tanto. Fai a saperlo? Riaccendo. Acceso le candele. Prima che lui le accende posso sentire se sono ancora calde. No, non sono calde. Ora sì. E, i pannelli sui muri sono intagliati con eleganti immagini di cervi tra gli alberi. Cerchi nelle pareti. Ci sono degli arazzi anche o solo dei... C'è questo... Dipinti di legno, secondo me. Alle finestre ci sono delle tende di seta rossa. Io sei un immobiliare. Ne prendo una e la butto nel fuoco. Che se ci sono gli arazzi, meglio lui. Tapestry, tappezzeria che mostra dei cani da caccia. Sono gli arazzi che voleva. Degli sono arazzi, posso prenderli? Me li metto nello zaino. No, sti cazzi. No, o li metti nel camino. Non si ruba. Non si ruba. Facciamo a metà. Non si ruba. Non hai sentito Word? Non si ruba. Ora basta, ragazzi. Smettetela di trafugare cose che non sono vostre. Non stiamo trafugando, stiamo semplicemente prendendo la nostra ricompensa per le nostre gesta. Non si ruba. Non abbiamo fatto gesta e la ricompensa. Abbiamo portato i bambini a casa loro e ci hanno ringraziato tornando su. Io ho preso solo questa spada che ridarò ai proprietari quando li troverò. Ma non ho preso altro e tutto il resto è finito nel camino. Sì, ma anche quello non è stata una buona mossa. Ma non è mia, cioè non ho preso per me. Concentriamoci. La prossima volta lasciano della legna. Vardistran Perception. Nel frattempo io prendo una rana, quello che mi piace di più. Uno. Lucky. No. E i muri sono molto ben intagliati. Non vede neanche me che prendo la razza, però se fa uno, Ho visto. Si è nascosto. Comunque. E questa è la stanza della cena. C'è qualche sbocco da qualche parte, no? Le finestre che sono chiuse. Se apro una finestra la nebbia entra. Direi che se non c'è nessuna scala che va giù andiamo su. Da giù rimane, rimane la vela. Come? Vabbè, l'altra porta che dà sempre sulla sala. Dica, guardate, la nebbia non entra. Apro una finestra. Beh, lì in realtà anche nella vita vera entri nell'altra stanza. Come ti entra la nebbia? No, ma allora in realtà riesco. La nebbia molto fitta anche dentro la casa. Esattamente. Come? Cioè, rientro nella sala. Cioè, questa porta qua te la nella sala. Sì. Quindi c'è un'altra porta. E poi c'è un'altra porta di fianco a te. Qui. Però sono intrigato in realtà da questo qui. È quello che ti dicevo, guarda roba. Quello delle mantelle. Ah, ho già visto che c'è. Ah, abbiamo già visto. Sì, dove ho preso le mantelle per fare il fuoco. Il perception, vabbè, lo posso fare di nuovo su questa? Sì, prego. Tanto ormai tiriamo un po' con svantaggio in giro. Esatto. Quello che ha svantaggio. Oh, 15 però. Perché non ne fai il lato? Io intanto vado a vedere l'altra. Perché non ne fai il lato queste cose? Sì, no, infatti le sto facendo io. Perché il lato è troppo impegnato. Una alla volta. Ma comunque. Qui ci sono delle idee. Contemporaneamente io mi sposto dall'altra parte. Un ragno morto! Sei nella cucina. Ah. Strettina ma confortevole, c'è un lavello, un piano da questo cucina, sembra un vacche. E ci sono tutti gli utensili lì. Lavello. Ma sentiamo la forno. E c'è un forno di pietra che ha forma di domo. Accende il forno. Che sta verso il contromuro. Ma c'è un piromane, che cosa sta facendo? Accende tutto. E non posso entrare. C'è anche la dispensa. La dispensa è quella, sì, c'è anche la dispensa. È piena o vuota? La dispensa è piena di cibo. Che è il materiale infiammabile. È che vuole accendere il forno. No, vado già, è pieno di tende e tappeti. Se c'è della farina, mettiti a far del pane. Dietro la stove, penso sia la stufa, c'è una pietra che conduce ad una dispensa molto ben fornita. Tutto il cibo della dispensa sembra fresco, però ha un sapore blando. Sì. Ma io non l'assaggio perché chi non lo si ruba, saprà non che si ruba. Minchia, avrei un tozzo di pane. È solo un paladino. Ma porca di quello. Non lo sto rubando. Mangiando no, mela. Sono anche un po' l'avventuriero. Potrei assaggiarne un pezzo per sapere se è fresco. Nell'angolino in fondo a destra c'è un montacarichi. C'è un montacarichi nell'angolino in basso a che destra. Che va giù o va su? Va su. Io guardo dentro e cerco di capire quanto in alto va, per capire se arriva solo al primo piano o anche oltre. Arriva fino. Lo posso tirar su? Cioè, con adesso lui dentro? No, non entro dentro, guardo così. Ci può entrare una creatura di taglia piccola. Tieni. Vedi che ti faccio entrare. Guardo solo per capire se è fatto dietro ai piani. Arriva fino al piano superiore terzo. Quindi arriva fino in fondo. E c'è anche un attico. Okay. Primo, secondo, vabbè, terzo. Ora noi per ora. Cioè, non ci sono, e non ci sono le cantine. Ah, quello lì il montacarichi sotterranei. Se guardi la scala tonda dove siete? Sotterraneo. Sì, ho visto. Non c'è una porta che scende, una scala che scende. Non qui. Uffa. Io guardo. Vabbè, nella stanza principale. Faccio un giro di investigation per vedere se ci sono passaggi segreti. Sì. Però quello è sempre perception. Sempre. Per sapere? Cercare passaggi segreti. Sì. Ah. Tu entravi nella. Io contemporaneamente ero che andavo in cucina e andavo nella sala in basso. Dove sei? Sei nella stanza principale, no? Sì, sono nelle scale. Non, non ti sembra ci siano passaggi segreti. Tu invece andavi nella stanza in basso. Sì. Come entri in questa stanza bravo. Piena di. Rivestita di legno di quercia. Non mogano? C'è una. Ah, non siamo ancora andati? Ci sta andando lui da solo per tenere il leitmotiv dell'avventura sopra di coloni. C'è una grandissima testa di alce. La testa di cazzo. Sono io. Posizionate qua e là ci sono le pelli di tre lupi imbalsamati. Ecco. Ci sono due, ci sono due sedie imbottite coperte di pelle di animali e un tavolo di quercia che, sopra il quale sono appoggiati una fiasca di vino e la rastrelliera di pipe, un candelabro e c'è un candelabro più grande sopra un altro candelabro ancora più sopra a un tavolo circondato da quattro sedie. Ok, e questi candelabri ci sono questi due mobili contro il muro e da uno è chiuso e l'altro invece è aperto. Ok, c'è qualcosa di le cose che hai descritto, i candelabri, così per me sono cose di valore, comunque immagino, perché è una casa sbarazzosa. Gli oggetti molto finemente non si ruba, quelli che non sono troppo ingombranti accendi i candelabri. Se il candelabro più grande è troppo grande accendi i candelabri. Non sai di dove sono io di sicuro. Comunque la stanza principale non è che sta troppo delle lontano. Cose più di valore, più piccole da portare, potrebbero trovarsi negli armadi. Di quelli che ho visto io hanno valore. Sono robe, sì, ma sono ingombranti. Ok, allora guardo i mobili. Io ne aperto una chiusa. Accendo i candelabri. Vado, provo quello. Cioè, aperto nel senso che è già aperto, che non è. Che non è chiuso a chiave. Allora intanto lo apro. Vedo cosa c'è. C'è una piccola scatola che contiene un mazzo di carte e un assortimento di vetreria per i vini. Ok, prendo il mazzo di carte, visto che io a carte mi sono vinto un indolo. Quindi prendo. Carte. Se tutto quello che prendete segnateci di fianco della casa. Carte della casa. Quindi dalla spada della casa. Sì. Aspetta che ci metto una C di fianco così. Anche la mantella nera. Non arriveremo mai alla fine dei vini? Stasera. Non ho capito. Eh? La cosa dei vini, non ho capito. C'è un assortimento di vini, di bicchieri da degustazione di vino. Provo ad andare con i miei attrezzi da ladro ad aprire quello chiuso. Prova. Cos'è? Un tiro di? Destrezza. Se sei competente aggiungi la competenza. Sì, con gli attrezzi da ladro sì. Quindi proficiency più destrezza. Ok. 1. 14. Ci sei quasi. Senti che sta per aprirsi. Nel frattempo io entro. Vedi il tuo amico che sta cercando di scassinare un armadio. Guarda, si fa così. Faccio una prova di athletics. Mezzo nell'altra stanza. Uno. Mi faccio malissimo. Ti butti contro l'armadio. No, vabbè, uno più. Aggiungi comunque, dai. Sì, vabbè, uno più. Tre, cinque. No, rovina completamente il lavoro che stava facendo. Adesso è completamente bloccato. Vabbè, ho anche un piede di porco io nel pacco da rapinatore di porco. T'ho rotto uno degli arnesi dentro la serratura. Provo col piede di porco, cattivo. Quindi prova di forza col piede di porco. Sì. Sì. Pura di forza, però ho il proprio se sei competente. Darlo a lui. 17. Riesce ad aprire un'anta. Top. Dentro ci sono. Ma così. Te l'ho chiuso sigillato. Una balestra pesante. Una balestra leggera. Una balestra a mano e 20 dardi per ognuna di queste. Allora prendo. I dardi sono normali. Sì. Prendo la balestra a mano e quella leggera. E i relativi dardi. Della casa. Sì, sì. quindi Baal. Non so, io come l'idea che sta cosa della casa, dentro un po' la spada la lascio qua. E io ho la vaga idea che spariscano tutti. Come i bambini, lo so, però nella mia testa Io, hai detto che c'è una bottiglia di vino, no? Beh, la presentazione del piatto. Non c'è una bottiglia di vino, c'è un set di bicchieri. No, quello nell'armadio, sulla scrivania c'è una fiasca. Cerco di capire a quanto è stata aperta. Grazie, vecchio, ci picci sempre. Cioè, il vino se lo apri per troppo tempo diventa rancido, non è più buono. Lo assaggi. Oh, lo faccio assaggiare a lui. Cioè, prima lo annuso così per vedere che odore ha. Insomma, sapore... investigation vale, no? Non saprei. Ha un sapore blando, sa di poco. Quindi non saprei dire. Come il cibo. Vabbè, le palestre le ho prese, ok. Comunque c'è appena un goccio per giusto sentire il sapore. Ha un sapore. Volata tengo per la prossima, che questa è un po' più fresca. Ok, basta, io sono a posto. E ritorno nel salone principale. Con le mie abilità. Io entro. Non si ruba. No, no, praticamente fortunatamente non ho visto niente, non so neanche niente. Io sto uscendo. Dico, ma. Come funziona la balestra a mano? Tipo cosa avete trovato? Qui? Lo tengo con. Ok. Niente. No, no, niente di che. Ok, bene così allora. Ci sono delle balestre. Ora non ci sono più. Sì, possono tornare. Spero che l'abbiate lasciato dove erano. Certo. A me non servivano. E intanto io spero che le abbiate lasciato dove erano. Faccio. Io non sapevo. So che l'ha già fatto lui, però io ero in un'altra stanza, quindi non lo so. Cerco eventuali passaggi perché ragiono ad alta voce. Dico, rega, ma dov'è la scala che va giù? Il tuo cuore. Beh, però c'è solo una scala che va su. Però parlavano di sotterranei, ragazzi. Vabbè, a quanto pare i ragazzi sono sbagliati. E cerco anch'io nell'androne principale un eventuale passaggio. Passaggio 1 10. Un po' meglio, dai. Noti che nelle. Nelle immagini scolpite nel legno, tipo dove ci sono dei fogliami e degli alberi, praticamente sono fatti in modo per cui se le guardi in una certa angolazione si vedono formano immagini di lupi, serpenti e altre creature, facce di grignanti. E dall'altra angolazione? Alberi. A uno normale albero. Fatto notare a loro, guarda, figo, l'hai visto che effetto? Bello. Lo mordono. Io faccio notare. Vedi, un po' come se prendi la sua testa e vai così. Poi mi avvicino e tasto le cose per vedere così, per curiosità. Dico, tasta le cose. Se non sono troppo in alto, non so. No, sì, è il muro. Ah, per curiosità voglio vedere. Che bello questo effetto. Il muro, vado lì, tipo, il muro non verrà letto con te stasera. Non c'è tempo da perdere, saliamo al piano superiore. Qua non c'è niente. Oh, guarda che potrebbero esserci pericoli e andare giù. Assolutamente. Quindi vai su. È vero? Arrivato. No, arriviamo alla scala. Fermi. Salgo un gradino, scendo il gradino. E salgo due gradini, scendo due gradini. Io nel frattempo vado su. E poi aspetta, e poi risalgo normalmente, finalmente. Ok. Arrivate un po' di polvere nella stanza superiore. Ci sono diverse lampade alle pareti. Ovviamente accendo qualsiasi lampada che io sopra. No, sì, sulla destra. La scala conduce lì sopra. Ci sono diverse lampade alle pareti di questa sala molto elegante. E che penzola da sopra c'è questa tela in questo ritratto in una cornice di legno della famiglia Darst. Vediamo i bambini? Sì, ci sono Gustav ed Elizabeth con i loro due bambini sorridenti. Questa è una notizia. Uguale a come li abbiamo visti noi? No, uguale a come li abbiamo visti voi, e con sotto i loro nomi Rosa e Spina. Uguali ne Torn. Rosa no, uguali nel senso rosa e spina. Sì. Per la in inglese. Per la precisione sono Rosa Valda e Thornbolt. Ah, ok, dici questo. Rosa e spina. Curiosità, colore della pelle. è un po' più vivido. Notate che il padre tiene in braccia un bambino in fasce. La madre lo guarda con una smorfia di disapprovazione. Cioè, lo ritratti in questa posa? Ritrattista è uno stronzo. Tipo l'unico momento che lei l'ha guardato male. Testa, oh, perfetto! Allora, secondo me, sì, quello è il figlio illegittimo che lui ha avuto da una cameriera. Bastardo. Ed è quello al terzo piano. Quindi questo razzo. Del resto ho preso Investigation apposta. È sul camino, giusto? Te lo dico. Questo. Dov'è che sta? Dice hanging above the mantelpiece. The mantelpiece? Che cos'è? Non c'è qualcosa che faccia intuire una data? Un sopra il pisciatoio? No. Il camino è acceso da quello che ha acceso lui di sotto o no? La logica dovrebbe arrivare. No, non può arrivare il fumo, altrimenti si intossicherebbe. Quindi No, sei un altro. Sì, è la cosa sopra il. Accendo anche quest'altro camino. Al muro ovest, vedete lì nella mappa che ci sono. Ovest e est ci sono due armature sì. Che fiancheggiano le porte. Cosa sono? Scusa, armature. Ogni armatura ha una lancia e il visore dell'elmo ha la forma della testa di un lupo. Che figata! Le porte sono scolpite di legno che raffiguranti. Dei giovani che ballano. Che armature sono? Dei giovani kebab. Dei giovani kebab. Che ballano. Armature Suits of Armor. Sì. Di armature di ferro, di metallo. Giulio, cioè già è pieno di dettagli inutili questa descrizione. Che poi, so, se vuoi aggiungere anche te. Una natura completa. Non si brucia, basta. No, vabbè, no, la voleva prendere. Beh, l'elmo è figo. Scusa, siamo in quattro, cazzo. Buoni. Faccio notare Vez. Beh, siamo in quattro. Hai già le tasche piene. Tolgo le lance dalle. Tu non lo sai. Però le tasche piene, ho preso una. Dalle mani delle armature. Un mazzo di carte. E la mantella che ho addosso. Hai quattro lance. E le butto nel camino. Le rompo e le butto nel camino. Ma tu continui ad ammirare la fattura del. Dell'intarsi in legno. Perception. E io guardo se c'è lo stesso effetto che c'è giù. Ragazzi, guardo... cioè, siamo entrati in una casa con due bambini che sono spariti. Queste armature potrebbero animarsi da un momento all'altro. I giovani che danzano non stanno danzando, ma in realtà controlli meglio e stanno scacciando uno sciame di pipistrelli. Ah, quindi a seconda di come lo guardi? No, se guardi meglio vedi in dettaglio. Ci sono tanti piccoli pipistrelli. Ok, questo è strano. Le scale proseguono nella spirale fino a in cima. Potete sentire un'aria molto fredda che viene da venire da Atanas. È freddo. Accendo tutti i fuochi che posso accendere. C'è una stanza alla vostra destra e una alla vostra sinistra. Dove pensi che possa essere più sicuro andare? Allora, l'ultima volta che abbiamo provato un pericolo era a sinistra, quindi andiamo a destra. Perfetto, ragazzi tutti a sinistra. No, aspetta! Perché se è capitato a sinistra, qual è vuol stato dire il che pericolo che abbiamo trovato l'ultima volta? Non lo so. Va bene, tutti a sinistra, l'ho deciso. E quindi giù? Qua, esatto, nella... Dritto e giù! Non so perché. Giù. Conservatory, c'è questa grandissima sala con un... clavicembalo. Ci sono dei drappi molto eleganti. No, ma io ci provo lo stesso. Dei candelabri di ottone che penzolano dal soffitto. Ma vale un sacco tutta questa roba. Sì, cioè vale la casta, il printer, rubati. Cioè, vicino al camino c'è un'arpa. Bella. Strimpello l'arpa. E con delle figure di alabastro. Molto finemente vestite. No, è troppo grande. Che decorano il mantelpiece. Che non posso rubare le corde? Come? Posso rubare le corde dell'arma? Posso danneggiare. No, però la sua, cioè la strimpella, non sono capace. Mensola del camino. Beh, anche se tecnicamente, da il mio precedente io. sapeva suonicchiare, quindi... Però ma poi hai perso un dito. Ma poi io poi a casa mi manca un dito. La mensola del camino è adornata da figurine d'alabastro in posso suonare vestiti così. Molto eleganti. Una ispezione più vicina dito. Rivela quando, che sono in realtà degli scheletri completamente vestiti. Aspetta, prima che questo avvenga, quando Ade suona, io mi volto e faccio la musica del diavolo! Ah no, sei tu. Vai più. Raga, sta casa è davvero creepy. E quelli ci sono degli scheletri? Che, nelle decorazioni di questo camino. Ah, nelle decorazioni, ok. Sì. Nient'altro in questa stanza. Lui ha provato a suonare il cembalo violato. Non c'era qui, non era qui il pericolo. Sono accordati gli strumenti. Vabbè, non siamo musicisti, però lo senti. Cioè, c'è qualche se il cembalo è abbastanza ben mantenuto. C'è qualche candela? Tutte le le pareti ci sono delle lampade. E c'è un candelabro con delle candele. Questa casa mi sta. Accendo una candela e con la cera traccio un simbolo. Ma ora che ci siamo saliti al secondo piano. Così. Ora che ci siamo saliti al secondo piano, saliamo anche di livello, secondo me. Siete al secondo livello, effettivamente. Bene, l'ha detto. Hai capito cosa ha fatto? Ha preso una candela con la cera e ha fatto il simbolo. Non lo voglio sapere. Così. Però, scusa, ha rubato una candela. No, no. Poi ha rubato una candela. No, non è che me la prendo per me. La materia è rimasta tutta lì. Esatto, cioè... non ha preso la materia. Dove è andato? Al massimo l'ho usata. Saliamo, raga, dai. No, finiamo più. Jamie? Saliamo. No, che saliamo? Non finiamo più, sennò dai. Perché saliamo? Ci sono altre 8 stanze. No, non so un cazzo. Scusa, intanto che noi facciamo alcune stanze. Velocemente esploriamo le altre stanze. Va bene. Andando nella stanza d'altra parte c'è la libreria. E ci sono. Lui ha paura dei libri. Dei drappi rossi che coprono le finestre di questa stanza. C'è un bellissimo tavolo di mogano. Con delle sedie. Ah, sono trovato al Mogano. Però brucia tutto bene. E i libri, cazzo. Non è come brucia. La struttura della casa è in legno. No, è mattoni. Beh, non penso tutte i mattoni a tre piani. La Madonna. Ma sei diventato. Cazzo è, oh. Scusa, c'è il pavimento sarà in legno. Però le mura sono in mattoni. Perché se è in legno bruciava. Visto che ci sono poco a tutto. I pavimenti saranno in legno, le mura in mattoni. Su queste sedie guardano il camino e ci sono negli angoli altre sedie che sono piene di libri. E ci sono 4 librerie che vanno dal pavimento al soffitto e c'è la scala di legno che è quella mobile. Per raggiungere le stanze più alte. O ci sta sfuggendo qualcosa. Oppure questo ha fatto, cioè così per divertimento, ha fatto 2 piani senza niente. Ma c'è uno scrittoio, anche una scrivania. C'è questa scrivania. Cioè, che guarda se c'è qualche foglio. C'è una lampada d'olio, un coso di inchiostro, una penna, un acciarino, una scatola di fiammiferi. Ma c'è qualche documento scritto. Esatto, guardo anch'io nella biblioteca che tipo di libri sono. Il sigillo che ha il simbolo della famiglia, quello del mulino per la cera. Io non sarei curioso di aprire i libri posti in te. Il cassetto del tavolo è vuoto, ad eccezione di una chiave di ferro. Io una chiave di ferro. Prendo una chiave di ferro. Io prendo chiave di ferro. Non si ruba. Io prendo un libro. No, magari ci servirà. Sì, io prendo un libro a caso, vado vicino a me e gli faccio: oh, adesso te lo apro. Adesso te lo apro. Guardo che libri ci sono. Ci sono libri che anche preziosi, alcune sono delle prime edizioni. Preziosi, hai detto. Che includono libri di storia, di guerra, di alchimia. Esaminati i libri. Sì. Beh, io li esamino dal punto di vista. Comunque, di valore. Io te lo dico, Word. Lo faccio anch'io, Perception. Word, io prendo la chiave e poi la rimetto a posto. Ma si sa mai che ci tornasse utile. 13. No, prendi una chiave, prendila. Sì, ho detto a Word per avvertire. Word, prendo una chiave. C'è. Non bruciarla. Un libro finto. Ormai tanto. Un libro finto? No. C'è un libro finto. In che senso? Che non è un libro. Sembra un libro, ma non lo è. E cos'è? Un contenitore? Cosa fai? Lo prendo? No, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Tiro fuori. Aspetta, chi l'ha tiro visto? Fuori il mio artiglio di corvo mummificato. Ok. Che schifo, è il nino più brutto di tutti hai scelto. E comincio tipo a grattarlo così. Poi tipo faccio. Ok. Sai che ho un... Vai, è il momento, vai. Vai, ora, ora, ora! Lo sai che ho un'amica che ce l'ha davvero? Ma ti nel collo ogni tanto. Non lo volevo sapere. Vai. Vabbè, il momento, adesso. Vai, la zampetta. Perché se sono un figlio, okay. No, la zampetta. Senti un meccanismo che scatta e questa libreria comincia a spostarsi. Wow. Rimetta la candela. Rimetta la candela. Rivelando una stanza segreta. Sì. Dov'è? È lì in alto a destra. Ah, quella piccolina lì. Ah, come okay. Porta alla piscina? No. No. Giulia c'ha il costume in infradito che scalpita. Allora, questa quindi... stanza segreta contiene delle librerie che sono piene di tomi che descrivono l'evocazione dei demoni. Rituali per l'evocazione dei demoni. Oh, questo è il momento di rituali necromantici di un culto chiamato i preti di Osibus. Aspetta, Bosibus. È religioni. Cazzo, svantaggio anche su questo. Vabbè, io non lo faccio, non ce l'ho. 14. Oh, 14. I rituali 12. Descritti qua no, sono 11. Delle fregnacce. Basta se studiate un po' per un'oretta questi scritti vi rendete conto che sono solo fandonie, non sono dei veri rituali. Cioè? E perché gli ho messo in una stanza? Ma io ho fatto religion, cioè conoscevo questo. È no, è una bufala. È omeopatia. Necromantica. Ma la vostra attenzione. Quindi non li brucio. Peccato. Mentre state lì un'ora, vi accorgete che c'è una pesante forziere di legno. Dopo un'ora. Esatto. Questo mi sta tanto di riposo dove io non ho più il mio livello di esaustione. Mettiamo se riposo lungo per noi. Sfondo il forziere. Sai perché non l'avevamo aspetta. Visto prima? È aperto, lo chiudo, no, lo sfondo. Chiuso, ma sopra questo forziere ci siamo è verso uno scheletro in armatura di pelle. Scusi. Ah, è quello della tipa. Non l'abbiamo visto per un'ora questo. Qui è la tipa, chiaramente, è il luogo della tipa. Lo scheletro del nemico. In teoria c'è un tesoro nascosto seppellito insieme allo scheletro del nemico. Sì, ma non è un prete. Nemico. Attenzione, hanno nominato anche il prete in nostro aiuto. Questo è il culto dei preti. Ma non è consacrato. Cosa potrebbe essere? Una ispezione a questo quello che una volta era questo corpo di questo umano. Avete visto che ha dei dardi avvelenati tra le è un uomo o una donna? È un uomo. Tu cerca trappoli. E ci sono ormai siamo qui da un'ora. Aspetta, vedete che appunto ci sono, cioè notate che appunto questi dardi sono sparati dal meccanismo, sono stati sparati dal meccanismo di questo forziere contro chi ha cercato di io posso provare a controllare se è disarmato. Allora forse non è nemico. Sì. Cosa devo fare? Penso sempre disarmare trappole, usare i tuoi io cambio stanza mentre quindi competenza più destrezza sempre. Con sì, con proficiency. Ah no, non conosco. Usa gli strumenti per vedere se competenza più destrezza sempre sì. O sì. Non so se c'è competenza. Sì, ho gli attrezzi da ladro. Ma non vuol dire che tu abbia competenze loro. Sì, certo, da ladro, sono ladro. Vabbè. 11. Fa comunque schifo. Il meccanismo non funziona più. Ho la certezza che siamo liberi di aprire, quindi. Ho detto che il meccanismo non funziona più. No, per riguardo al meccanismo. Ma non scatta. Da dove uscire questi dati? Potrebbe funzionare ancora. Ma non c'è tempo da fare. Dal forziere. Da dentro forse. Ma verso una direzione specifica? Davanti così, alla serratura. Se provi ad aprirla ti spara. Proviamo ad aprirlo. Ci mettiamo ai due lati, proviamo ad aprirlo. Non sto davanti. Lo prendo da un lato. Facciamo che nessuno sta davanti. Stretta nella mano dello scheletro c'è una lettera. Prendo la lettera. Chiusa con una cera lacca. E porta un simbolo che non so se avete già visto. Religion di nuovo con... Beh, nel frattempo io leggo la lettera. Posso fare con religion? La lettera è firmata. Aspetta e un quindi attimo. Supponete aspetta, che prima sia quindi aspetta un attimo che scrivici il simbolo appunto capite che il simbolo è di tale conte Strad von Zarovich. Ok. Che firma questa lettera. E cosa dice? Dice: al mio più patetico servitore, non sono il messia che è stato mandato a te dagli oscuri poteri. Non sono venuto qui a mostrarti il sentiero dell'immortalità. In ogni caso, tu hai dissanguato molte anime sul tuo altare nascosto e molti visitatori sono stati torturati nelle tue segrete. E sappi che non sei tu colui che mi ha condotto, che mi ha portato in questa bellissima terra. Tu non sei altro che vermi che strisciano nei miei possedimenti. Tu dici di essere maledetto, che la tua fortuna è esaurita. Sto leggendo io. E tu hai abbandonato l'amore per la pazzia. Hai trovato consolazione nel ventre di un'altra donna e hai generato non sto capendo se è un amante tradito. Un bambino mai nato. Maledetto dall'oscurità, di questo ho qualche dubbio. Salvarti dalla dannazione non penso proprio. Ti preferisco molto di più come sei. Il tuo terribile signore padrone Strad von Zarovich. Notate. Vedi, quindi la storia della cameriera. Notate che la calligrafia vi è familiare. Quella della lettera d'aiuto. E siamo riusciti a leggerlo subito. Beh, questo è già un passo avanti. Vabbè, mi sono allenato, ragazzi. Cioè. Quindi era un fake. Quello del borgomastro. Oh no! Ok, mai accettare questo dai nani di merda. Cioè, i nani infetti da nanismo, non i nani. Vabbè, non sono razzista contro i nani. Solo quelli affetti da nanismo. Solo gli umani che sono dei nani. Aprite il forziere, ci sono tre tomi di pelle nera, relegati in pelle nera, del valore di 25 monete d'oro ciascuno. Sono per te questi tomi. I tomi, questi vanno bruciati. Ci sono tre pergamene degli incantesimi, una di benedizione, una di protezione dai veleni e una di arma spirituale. Ok, questo le prende. E ci sono come si dice, l'atto di proprietà della casa, l'atto di proprietà della casa, del mulino e delle ultime volontà firmate. Io faccio rapidità di mano per l'atto di proprietà. Guardo le ultime volontà. E le ultime volontà sono firmate da Gustav ed Elizabeth Darst. E danno in eredità la casa, il mulino e tutte le altre proprietà di famiglia a Rosvalda e Thornbolt. Ok, io ho fatto 18 in rapidità di mano per prendere l'atto di proprietà. E nel caso in cui i genitori siano morti. Tu stai leggendo il testamento. Prendo l'atto di proprietà della casa. E non fa menzione di date, cose. E i tomi invece? Quelli i tomi sono altri? Degli libri. Libroni di pelle nera. Così basta. No, non fa menzione di date particolari. Voi sapete che siete nell'anno 750 qualcosa. E A Burbe Condide. E questa era la stanza segreta. Avete saltato a parte la scala che va su. Vabbè, nell'altra c'è. Aspetta, io ce l'ho il lato di proprietà della casa. Sì, io posso fare il perception per vederlo, però. Che cosa? Contro il suo rapidità di mano. Va bene. Con svantaggio. Quanto hai fatto? Vedi, cioè, in realtà no, non è sembra step, un essere però. Umano. Cioè, io ho fatto. Ma no, vedi, lo faccio in maniera che nessuno riesca a fermare. Lo scheletro non ha altri segni distintivi. Però vedi, non lo faccio. Cioè, non che ha un'armatura di cuore. Oh, bello, questo è mio. Questi tre dardi da avvelenati. Cioè, lo faccio in maniera di farlo in maniera veloce. Poi dopo tu puoi dirmi, ehi, ciccio, l'hai rubato. Però intanto l'ho preso. Ehi, ciccio, l'hai rubato. Però intanto l'ho preso. No, ora è il caso la mia. No, questo, cioè, vediamo, ma non è corretto così, anche se questi sono probabilmente degli usurpatori. Ma io l'ho preso per portarlo ai ragazzini, quando li ritroviamo lo do a loro, nel testamento c'è scritto che va a loro, intanto lo tengo io. No, lo teniamo insieme a tutti. Questa casa va bruciata. Allora dopo dobbiamo, che siamo usciti. E allora dobbiamo assicurarci che venga bruciato anche l'atto di proprietà, teniamolo, non ci sa mai. No, li mettiamo insieme agli altri. Va bene. No, partiamoci dietro tutto. Siamo in un covo di non so. Creature strane. Bene, portiamoci dietro tutto, però. Cioè, non avete sentito il nostro chierico. Avete sentito la lettera che vi ho letto, no? L'altra stanzina che vi rimane è la stanza della servitù. No, ci sono due letti tutto e lui. Un campanello. Vabbè, quell'altro ce l'ho io, adesso quando lo viene premuto un pulsante per chiamarli. Perché sì. Non ti fidi? No. Perché non ti fidi? Perché stai rubando roba in giro. Cosa rubato? Ho preso solo una mantella, cosa rubato? No, sei pieno le tasche ormai. Comunque, dai, non hai visto niente. Dai al dado, all'ex ladro. Non l'hai visto. Nel frattempo io sono roba che l'ho visto prendere. No, solo la mantella. Quella della cosa lì no, però ho visto che va in giro a cercare. Solo la mantella, più non ti conosco. Nel frattempo sì, io ho suonato no. Il campanello della servitù. Sentite un campanello che suona. Che cazzo è? Chi è? Perché? Stavo cercando di far uscire la roba che c'è, ma non esce. Oddio. Molto bene. Nel mio zaino prendo un foglio qualunque, glielo do. Ci sarà un foglio del cazzo qualunque che non è la tua proprietà. Beh, ma tu ce l'hai in mano. Lo apro. mi hai dato una cosa diversa, gli dico. Però questo è un porno. Dopo ti do l'altro. Andiamo ora, non c'è tempo da perdere. Dai, su con questa. Rimanere qui potrebbe essere pericoloso. Esatto. E l'altro stanzino che cos'è? La stanza della servitù dove sì. È entrato. C'è un'altra stanza. Quale? Quella con due letti. Sì, e all'interno di quella stanza c'è un'altra porta. Non so, dimmi tu, lo vedo nella mappa. Cioè, vedo la porta, in sostanza. Quella in basso a sinistra. Questa qua dice. Quello stanzino piccolo lì con la porta. Che cazzo è? Vabbè, andiamo oltre, se sarà lo sgabuzzino della servitù. 7B, no. Deve entrare nella stanza della servitù. Sì, io sono dentro la stanza della servitù. Lì c'è un'altra porticina che ti conduce a... Il fosso dei mostri. Ma lo spogliatoio. Esplode tutto. Hai vinto. Spogliatoio. C'è uno spogliatoio con un bottone nel muro. E premendo il bottone suona un campanello. E io richiedo al piano di sotto. Chissà. Avete sentito anche voi? Vai già a sentire chi è. Le pizze. Le pizze. Alla C secondo piano. Esatto. Oh, finalmente potete salire. Quando il master dice finalmente non è la scala. Arrivate al balcone. Salite le scale di marmo rosso fino alla loro massima altezza. Sono 1000 camere. Come il balcone? Ci metterete 2 ore. Il balcone? Ci metterete 2 ore. C'è un balcone. Ah sì, che dà sull'androne delle scale. Sì, ho capito. Sì. E, sì, accendo tutto quello che c'è da accendere. Il piano, il pavimento su cui camminate comincia a riempirsi di polvere. È sempre più polveroso. Più polveroso. Man mano che salite. Quindi è più vero. E ci sono sempre più ragnatele. Che puoi bruciare le ragnatele? Devo prendere un po' fuoco. Beh, io accendo le torce, le finestre. In questo balcone c'è appunto coperta da polvere e ragnatele un'altra armatura, però a piastre nere. Bella, ha delle armi. Ha una spada. E via, la prendo. È lunga. Arrivo. Ci sono. Porca troia, cioè nel senso. Ci sono delle lampade ad olio. Potrebbe andare avanti. Comincio a tirare delle spadate, non ce lo so. Non ti preoccupare, non dovrai essere tu a farlo. La prendo e la butto giù dalle scale. Arrivo. Ma chi? Cioè, questo effettivamente è strano anche per me. Con questa spada, via! Io capisco quello magari del candelabro e se lo piglia, o l'atto di proprietà. Ma perché questa cosa? Perché ho paura che siano delle armature che poi si rianimano e ci attaccano con le armi. Per questo ho rotto le lance e buttato nel fuoco. Tutto quello del roba a fuoco. Il resto è un caso. E le mantelle, metti che prendono vita. Come allunghi la mano per prendere la spada, l'armatura ti prende il posto. Oh, tirate l'iniziativa. Giusto! Vedi che avevo ragione, giusto, però. Giusto, cazzo! Vedi che avevo ragione, però. 9. 12. Sprecato 20, così. 22. Bello, beh, insomma, direi che manzi. 18. Con quale arma posso combattere? Le ho tante. Secondo me lui ha svantaggio, è troppo pieno di roba. Una cosa! No, è vero, hai 26 armi. Allora, quanto hai di forza? 10. No, a sto gioco è con svantaggio, vero? Sono troppo pieno di roba. Ho un arco. Vai, Atanos. Ho un arco, uno stocco, due balestre, basta. 22. Sì. Vabbè, una balestra a mano. E l'altra è leggera. 26 armi, perché? Sei in piedi. C'è la mia mano è bloccata. Sai quanto pesa questa roba? Cioè, come se. Ma lo stocco un chilo, l'arco corto un chilo, la balestra. Sì, te giuro. Dai. Ma. Sono con svantaggio perché ha troppo peso, lo mollo nel caso. Che cos'è tu? Boh. Vabbè, 12 anni. Oltre al mio equipaggiamento in spezzare, più ho preso di pesanze le due balestre. Liberato. Sulla mia mano. In più ho preso le due balestre. Più o meno. Quanto hai fatto? 8. Non vai molto in palestra a darsi, No, come anche che non sono stato deciso. Ora tocca a lei. Cioè, io non posso fare un altro attacco perché lei mi tiene. Perché avrei due. Tu hai due armi. Puoi provare a liberarti però con l'altro mosso. Puoi fare un altro attacco? No, in effetti. No, puoi provare a liberare la mano. Sì. Athletics. Più 5, 11. Riesci a liberarti. E lei viene avanti e ti dà due ceffoni. Primo ceffone. Perché non ha più la spada? No, dai. 11 dovrebbe 16. Mancarti. No, ce l'ha la spada, non ho fatto in tempo a togliermi. Sì, però tanto attacca con lo schianto, quindi. Ah. 9. Con la sua bellezza. 16. Bene, prego. Schianto. Adene. Ade. No, e basta. Sono indeciso con quale arma attaccare. L'aide, muoviti. No, col mio arco corto mi allontano un po' e gli tiro. Vedi, io spero che muoia anche qua. Lo scontro 20 colpito. Il fatto, non mi ricordo questo serio, il fatto che fossi in corpo a corpo così è furtivo. Tira ho il furtivo. Perché avrei avuto vantaggio? No, perché hai un alleato in corpo a corpo col tuo bersaglio. Ma non ha vantaggio. No, l'assassinito non ce l'ha. Ma siamo a lui, al cazzo. 8, 2, 5, 13. Sti cazzi. Che più 5? Proficiency e destrezza. Ma i danni anche ai danni la destrezza. Esageriamo. Allora, più 5. A più 5 a colpire. Sì. I danni non esageriamo. I danni solo la solo? Solo la forza. Cioè, la destrezza. No, la destrezza. Vabbè, sì, la caratteristica. Avevo... Intanto. C'era un motivo probabilmente. Vai. Allora togli 3 danni, scusami. Vai, e 2 danni. Allora, e niente, vado lì e scarico il. Vado lì e dico, ti sta bene, Atanas, ti sta bene. Cazzo, cala di 2 i danni. Sì, sì. C'è solo questa che si è attivata, questa. C'è solo in questo balcone c'è solo questa armatura. Ok, vado, scarico, cerco di scaricare la mia potenza su cosa. Non è un ability check, sì. Quindi tiro è normale. Un attacco. Ok, d'ora in poi prima ne trafiggo e poi dove si prepara. Faccio 19. Colpito. 6 danni. Mm-hmm. Prego. Vado anch'io. Boom. No, non lo prendo, direi. 3 di dado. Ok. Vai. No, Atanas. 2 spadate. 20 e 12. 20 colpiti. Ben niente qua. Forse la condensa della coca. Sì. 10 danni. Ah, però. E lui ti risponde per le rime. Guarda che sfiga stasera, ragazzi. Ti manca con tutte e due. È molto bagnato? No, questo no, qui avevo bagnato lo schermo. E dopo di lei c'è Adene. Ade. Ma Ade? Ade. Cosa fai? L'Aide. Dai, dai. Mi sdraio sui primi gradini, tipo così, e con la balestra a mano. Credo che sono mossa la Giulia, non mi posso guardare gli altri. Ma scusa, prima volta non hai sparato con l'arco. Ah, giusto. Sì, sì, beh, tanto gli piace. Posso farlo? No, è troppe mosse. Sì, al prossimo tiro turno. Un dado, ti prego. No, vabbè, tiro con l'arco. Però mi sdraio. Va bene, sì, lo colpisco e basta. Svegliamo. 12. Mancato. Tutto sto casino. Va bene. Sta a me. Vai. Il per colpire dove era? In corpo a corpo. Nello schede. Aspetta. Il famoso. No, erano 5, 10. La competenza? 2. Sì. Oh. Mancato. Mancato. 10. Darn. Oh, 19 più. Capito. 5 danni. Oh, scusa, è molto ammaccato. Nuovamente. Non fa niente questa roba. Schifo. Manca. 17 e 9. Mancato. Anche 17. Anche 17. Ah. Un'armatura dopo. Ragazzi, si era tirato più del 7. Fortuna che dovevamo morire. Esatto. Ma è molto cioè, poi vai Adene. Tiro normalmente con l'arco. 23. Colpito. Sempre furtivo quindi. Eccolo. 6. 8. L'armatura si disarma in tutte le sue componenti. La possiamo indossare. Spera che non si riani. E la polvere che avete alzato si riposa nel terreno e così potete ammirare questo splendido bancone fatto di pannelli di legno di quercia decorati con scene di sono tornato a quercia. Sì. Scene di boschi e foglie che cadono ai piccoli animali. Per esempio sulle immagini. Ma vai. Scusami, Katta, posso dire una cosa? Cioè noi siamo quella in alto a sinistra. Sì. In mezzo dalle scale, siamo appena saliti. Sì. Il balcone che intende lui è quello che guarda giù. Vedi che c'è l'armatura lì al centro. Contro il muro. In quello a sinistra? In alto a sinistra, sì. La cima delle scale. Lo vedo io da qua. Ah, ok. Ah, ok, è un balcone, ho capito, sì. Che da... Cioè, balconi inteso, però, ok. Esatto. La balconata, diciamo, cioè un balcone. Che cosa noti, Shio? Ho fatto 21 sulle immagini. E noti che in queste scene boschive ci sono tanti piccoli cadaveri che penzolano dagli alberi. E ci sono dei vermi che spuntano dal terreno. Ok, le scene sono sempre più inquietanti, non so esattamente i gusti di questa famiglia. Quanto hai fatto di perception? 21. Un quadretto quant'è? 5 piedi? Sì. Trovi una porta segreta. Boom! Aspetta. Nel muro a ovest. Ovest, no, però sono giusti così i segni. No, sono dei 20 com'è. E sotto l'ovest. Dov'è una rosa? Sì, il nord a sinistra. Quindi l'ovest è sotto. Giù. Giù c'è una porta segreta con una scala che sale. Ah, quella lì. Quella in basso, sotto esatto. Le scale. Quella lì sotto. Quella lì. Quelle sono scale. Sì. Quelle sono scale. Ok. Che saliamo, che scendono, non ho capito. Saliamo, dai, ma dai. Che vanno nell'attico. Ma su. Vai, andiamo su. Arrivi. Che sarebbe dov'è l'attico? La destra, l'attico destra, è destra, l'ultimo che vedi. Scalelle. Ah, ok, sì. Sbuchiamo da lì, ok. 16. Questa stanza è soffocata dalla polvere e dalle ragnatele. Questa qua. Aspetta, questa. Sali, esatto. Questa qui? Quella lì. Scusa. Ma vabbè, avevano detto che. Bella interpretazione. Ha detto che al terzo piano c'era il bambino che piangeva. E invece. Ah, cazzo, hai ragione. Ma non c'era. Torniamo indietro. No. Vabbè, già hai avuto il coraggio di salire senza dire niente, ora non tornare. No, più. No, no. Dritto. Qui mi impongo io, torniamo indietro. Merig. Ora che abbiamo scoperto. No, non mi ricordavo sta cosa. Adesso che me l'hai ricordata. Aspetta, ma dove eravamo a lottare con l'armatura c'era un bambino che piangeva. No. Perché no? È perché non piange. Ha detto lui al terzo piano che c'era il coso. Che c'era il bambino. Giusto? No, mi pare che non sia detto così. Quello che hanno detto loro, ma non l'abbiamo sentito. Dove avevano detto che aspetta, c'era. Fate tutti silenzio e sentiamo se c'è un bambino che piange. Buono, non mi interessa. C'è un bambino che piange al terzo piano. L'avevano detto loro? Nursery. No, i bambini, cosa avevano detto? I bambini avevano detto che c'è un bambino che piange. Sentono i bambini nel... che piangere nel però non l'hanno mai visto, cioè poi a quanto pare sono dei mezzi mostri qualcosa, cioè no, però capito, altro figlio bastardo, ci hanno detto al terzo piano, andiamo al terzo piano, io torno giù, ciao Ves, vado con War, cerchi per il terzo sì, piano sì, però faccio una roba svelta, miseria, sono tre ore così. Andiamo, vai. In cima, tanto è in cima. Faccio ad arrivare un perception in giro. Trovi la nursery, è quella lì a sinistra, che è la 15. Non ci sono i numeri, quindi se no quella è più in basso, quella matrimoniale, tutta l'area sotto, quelle tre lì, sì. Anche qui polvere e ragnatele coprono questo, questa stanza da letto elegante. E, ci sono delle porte con i pannelli fatti di vetro opaco. Mm-hmm. E, questa stanza una volta apparteneva alla nutrice della casa. Però non c'è un bambino qui. Io entro, vedi, nessun bambino. Poi estraggo la testa dalla bambola. Isabel, c'è qualche bambino? E allora vado dall'altra parte. La testa dalla bambola, sai, si chiama Isabel. Qual è l'altra parte, scusa? Ora siamo in basso, giusto? Ora vedi che c'è quel matrimoniale. È pieno di matrimoniali. No, è in alto. In basso. Il matrimoniale. No, ha detto in basso. Sì, vedi quello, ce n'è uno in alto e uno in basso, è pieno. Sì, è quello in basso. Quello in basso è un matrimoniale. Noi siamo qua. Ci sono due cuscini. In quelle stanze lì ho guardato io. Sì. Ok, non c'è niente, via. Su. Aspetta, non ho finito. Che non c'è nel camino bruciato il bambino, visto che è passato giù. Non ho finito di scriverti. Ok. La stanza. Però c'è qualcosa di rilevante, a parte i cornicioni di mogano che si intrecciano. Cioè io voglio trovare sto bambino, per cui se non lo vedo lì, a meno che non veda qualcosa di strano, o mi fai fare un perception. Ma se non sai se i candelabri sono di ottone o di acciaio, tu non puoi andare avanti. Io li accendo comunque. Ti accorgi che c'è qualcosa? Sì. Perché dal pavimento esce dei tentacoli. Uno spettro che ti attacca. Oh, è abbastanza rilevante per te? Posso fare un'iniziativa o mi spara? Cioè, intanto l'ha fatta. 19. Io gli dico, vedi che era meglio andare su. 17. 20. 13. Allora. Che è picchiato anche per me. Vedi che era meglio andare su. Tanto te sei su. Che problema. No, sono sceso anch'io, ho detto. Sono scesi tutti alla fine. No, pensate che non sia una buona idea rimanere da solo. Adenea ha questa sensazione dentro di sé. Adenea non si ricorda niente di quando Atanas. Adenea. Siamo stati prima. Sì, fai sempre 20. Lo spettro è di una fanciulla, ovviamente spettro spettrale. Però. E rassomiglia alla... No, spettro no. Interno. No, neanche alla ragazzina. Spettro, puoi fare qualcosa? Che cazzo ne so, io lo picchio. Ma poi al massimo avrà resistenza. Usa l'altra arma. Che altra arma? Quella del primo del piano terra. Boh. Quella non l'ho neanche aperta. Dimmi che sotto non morti. Io in tutta la legno, anzi come prendere dal 24 e 20 di legno, picchiaglielo. prendere un paletto di legno dal 24 e 20 e taglierlo nel corpo per vedere cosa succede. Swinge. Sprite. Ma quanti ce ne sono con la S? Stirge. Purtroppo non ho messo. Non puoi far cerca. Ci metto una vita. No, è che hanno messo i segnalibri con le lettere dell'alfabeto, ovviamente, ma aspetta, forse c'è qua nel bestiario dell'avventura, potrebbe esserci prima, effettivamente. Beh, secondo me io l'ho beccato, te lo dico così. Sì, immagino, beh, intanto tira i danni di separandoli così sappiamo quale assegnare e quale no. Sono 11 no. E 7. Ma quindi? Lo colpisce o no? Appena lo trovo lo dico. Se no passo la mano dei mostri, guarda. Sì. È lì. Lo prendi tu. Tata. Crowbar. Hammer. Treatment. Holy sand. Flask of holy water. Sì, c'è anche l'acqua santa nel Monster Pack. È tipo quello di Van Helsing contro i vampiri. Il kit contro i vampiri. S. Satyr. Shadow. C'è la Shadow. The Shadow. The Shadow. Shadow. C'è lo Slug. Spectre, ecco, cazzo era finito. Quanto gli hai fatti di danni? 24, ah, danni. 11 e 7. Ok, capisci che ovviamente fa meno efficace rispetto a colpire un bersaglio normale. Ok, dopo di te c'è, hai fatto 19, Vaer di strada. Ok, allora io quello che vorrei fare è questo. No, però l'acqua santa mi sa che è inutile. Se ti può aiutare, la spettro alla forma di una ragazza scheletrica e consumata dagli anni. Cioè io gli vorrei sparare contro il mio Holy Symbol e fargli un persuasion per dire vade retro. Non scacciare. No, scacciare però. Si chiama esorcismo. però che ho l'arma a due mani. Puoi farti con timidi. Posso fare un persuasion. Per fare cosa? Per dirgli non siamo qua per te, torna nei tuoi abissi. Puoi provare. Vabbè. Forse sì. Tecnicamente posso pensare che parli l'abissale questo essere. Non lo spettro, parla la lingua che. Gli mostro il mio simbolo sacro. Detta peccato. Così. 13 più 5, 18 di persegio. Non ti sembra in grado di. Non ci si può ragionare con questa creatura. Va bene. Posso attaccare lo stesso? Sei un paladino. No, è la mia azione da questa. Vai. Dopo di te chi ha fatto 17 Bayern Sacred Flame deve sì, fare il tiro destrezza. Yes. Direi che lo supera. Stronzo. Mi dispiace. Bene, ora tocca a lei. Esatto. Che userà il suo Life Drain sul povero Vez. Vediamo se lo colpisce. 15? No. Bene, vai Ade. Posso nascondermi? Anzi, hai anche l'azione bonus per fare. Tanto timido. Allora mi nascondo. E faccio 21. Vittoria. Va bene. Poi basta. Passo. Ok, dopo ti picchio. Vai a tiro una freccia, una nube. 20 e 19. Colpisci entrambi. Guerriero vero sto giro, cos'è? Ma lui l'aveva detto. 9 e 5. Adesso sta tirando da paura, poi quando facciamo un'altra campagna recupererà. 9, 5. Ok, bene. Passi. Sta bene. Very strano. Ah, hai visto che a quanto pare se devi picchiare basta. Va a picchiare. 19. Capito. 10 danni. Morto. Meglio. Incantesimo in meno lo sprecare. Affondi la tua spada nell'aria dove prima stava. Il mio spadone a due mani. Bah. E lei non c'è più. Ah, visto la potenza del simbolo sacro? L'ha intimidito. Sì. Io esco. Oh, dai, ragazzi, ce la siamo cavata. Persuaso 18. Io esco. Dai, ragazzi, ce la siamo cavata bene. Tira una sberla ad Adelaide. Ok. Posso schivarla? No. Tiro per colpire. No, ma perché no? Lui può tirarmela. Perché ti tengo fermo io. E anche io, e la mia ascia. 14 ad acrobazia, dai. Ok. Doppia sberla. Dai, ma fammi Eldritch Blast. Ti avrei chiesto fregato con Athletics. Ah, 17. Svantaggio. Avrei fatto 13. Ma ti becchi la sberla. No, 13 no, 14 di casa armatura. Sì, ma tengo fermo. Va bene, quando avete finito di masturbarvi. Ma è casa armatura quella. Potete proseguire. Vabbè, la spada che ho preso è una spada normale. Sì. Vabbè, qui c'era solo uno spettro, non un bambino. Già, torniamo su? No, andiamo dall'altra parte. Ma che... Sì, vai pure dai tuoi spettri. Vado su. Dove c'è la camera matrimoniale? Verso est. Cioè, se stanzine qua c'è qualcosa? Verso est. Dove c'è il tappeto, la pelle di tigre come tappeto? La stanza dei padroni. Brucio la la differenza si vede dal letto. Quello era un matrimoniale che è davvero un matrimoniale. Sì. Ci sono dei guardaroba vuoti, delle specchiere. Delle... Nelle specchiere c'è qualcosa? No, ma ci sono delle scatoline per gioielleria. Con dentro? Con dentro li apri. Sì. Contiene. Una maledizione. La Vanity penso sia Vanity. Una specie di collana fatta di argento con filigrana d'oro. Boh, magari tipo una tiara, no? Non so. Boh, che vale 75 monete d'oro. E io gli fermo la mano adesso, ne sono rotto i coglioni. Cerca pure i tuoi bambini tu, dai mo. Poi. Ah, questa è la. Ah no, questa è la scatolina, il portagioia, ecco cos'è, sì. Che è fatta di filigrana d'oro e di argento. E contiene tre anelli d'oro che valgono 25 monete d'oro l'uno e un sottile collare di platino con un pendente di topazio che vale 750 monete d'oro. Quindi per un totale di... Una marea di soldi. 825. No, di più. Più la portagioia. Non ti segno un cazzo, ti fermo la mano, adesso se li prende il nano. Devi fare un tiro per fermarmi, non è così. Cioè, in realtà no, dipende, la tua idea della sberla, io ti fermo. Se tu non fai in modo di farlo in stealth... In effetti non l'ha detto. Lui cosa fa. Non lo so. Io provo a fermarlo, se provo a prenderci la roba. In realtà ci uccideremo tutti noi. Posso fare un'acrobazia per evitare che riesca a prendermi e rubarmi la roba? No, io non ti rubo la roba, specialmente ti fermo. Lui prova a fermarti, dovresti fare, appunto, dipende che cosa vuoi fare tu. Stealth non l'ha fatto. Eh? Lo schivo. No, io non ti sto tirando, cioè io sto semplicemente bloccando. Tu metterai la mano per prendermi, io ti schivo. Beh, cosa devo fare? Athletics? Fate, sì, è un Athletics contestato da o Athletics o da Acrobatics. Acrobatics. Grazius. 1. 7. Aspetta. No, niente, 6. Sì, per 7 a 6. Vabbè, ti sganci via, però non è che... Non lo so, io ho le mani sul corpo, non so se posso semplicemente rubarmelo tirando via la mano e non riesci a prendere... Puoi prendere, hai questa scatoletta con te. Mettere nello zaino. Adesso gli spado una... Io solo porta gioia, tanto svanirà, non sto scrivendo. C'è qualcos'altro qui? C'è qualcos'altro? No, per me siamo a posto così. C'è il, nell'angolino le tue malefatte. Il solito bottone che suona la campanella della servitù. Quella stanza, cioè quella porta ai piedi del letto. C'è un bagno. E quale? La porta ai piedi del letto. Lo uso. Ma quindi c'è sti cazzo di bambini al terzo piano, non c'è un cazzo. Io ancora sto aspettando la cosa più divertente che posso fare e non me la fate fare. Ti dico solo che te l'ha detto che c'era un bambino, un altro bambino che è scomparso. Ma boh, ma un minimo che ci fosse almeno qualcosa. È un armadio vuoto quello che vedi lì sotto. Comunque te dovresti solo che ringraziarmi, fra parentesi. Appunto, siamo venuti qui. Siamo venuti qui, abbiamo rischiato la vita contro lo spettro, almeno la gente quanto l'hai rischiato te. Bene, cosa ha fatto? Torniamo su. Questo piano non c'è un cazzo, sostanzialmente. A parte il tesoro che c'è. Per me è la cosa più bella che abbiamo trovato, l'abbiamo trovata qui. Ma quindi non c'è nessun bambino da nessuna parte. C'è stata Exp. Non c'è nessun bambino da nessuna parte. E non sono neanche salito di lì. Non siete neanche saliti di lì. Vabbè, torniamo su. Torniamo su. Tornate su. Scala segreta. Evidentemente era tutto uno. La spada dell'armatura, scusa, adesso che la prendo. Ormai faccio una domanda più stupida del mondo. No, fammi fare un perception. Scusa, però, ma da fuori ma non si fatta bene. Un piano in più. Ah no, aspetta, l'ho buttata giù per le scale. Lattico. Ah no, volevo buttarla giù per le scale. Lattico, okay. Sì, sì. Faccio dimmi. Comunque un perception prima di andare via in questa stanza. 13. Non ci sono. Se comparo le due spade, sono no, sembra più o meno uguale. C'è qualcosa di più. No, sono diverse. Quella che hai preso da giù è molto più decorata. No, dico come efficace, cioè, nel senso, sì, due spade lunghe. Non usare quella buona che è decorata vale di più. Qui non c'è niente di più. No. Ok, vai, via. Allora, mentre usciamo da queste stanze, sto qualche passo indietro a Vezza e fingo il pianto di un bambino. Arrivate nell'attico. E davanti a voi c'è una che è verso quindi est, insomma, in alto, dritto. Una stanza con una porta di legno chiusa a chiave. La chiave di ferro? Ah, giusto. Provo ad aprirla con la chiave. Si apre. Vedi che è utile prendere le cose. Vedi che è utile prendere le cose da questa casa. Mi sono ricordato una cosa. Ci sono la... E poi rompo la chiave. In questa stanza. E la ruccia del camino. Nella serratura. E la butto giù per le scale. Ci sono due piccoli letti per bambini agli angoli. Sarebbe quella in, quella in alto. Okay. Però quella in alto. Okay. Ah, no. E, questa è la stanza dei bambini. C'è ma allora sono sei stronzo, però. No, era sei stronzo tu che sei voluto tornare. Ho capito, ma ha detto al terzo. Io sono andato al terzo. Cioè. Il terzo piano, in realtà, è il quarto. Perché il primo piano si chiama piano sì, terra. Siamo in Spagna. No, anche in Italia. Per amor di brevità, i bambini mentivano. Così. Ma i bambini sono anche scomparsi sono nel anche nulla. Però a quanto pare Luci credeva intensamente. Ma vediamo di mandare avanti questa cosa. E ci sono due letti ma io per ho fatto bambini. Insight e tutto. Quando tutto sarà finito, rubiamo un bambino. Lo mettiamo al terzo piano e lo facciamo piangere. Cioè, vabbè, è vero per che i dettagli. Ma non costringerti ad andare al terzo piano dove guarda caso siamo stati attaccati dall'armatura. No, quello era il secondo. C'è no, una terza, sì, c'è un grande baule per dei giocattoli con un mulino dipinto sopra e una casa delle bambole che è una replica perfetta di questa casa. Io tiro fuori la testa della mamma. Ehi, guarda! Io guardo. E tutto ciò è coperto da ragnatele. Stanotte sognerò di avere la testa. Distesi per terra, nel centro della stanza, ci sono due piccoli scheletri che indossano degli abiti, insomma, molto ricercati e abbastanza familiari per voi. Sono i bambini che ci hanno accolto fuori dalla casa. Il più piccolo ha una piccola bambola di pezza che riconoscete. Perché riconosciamo la bambola? Perché ce l'aveva in mano. Ah, quella che aveva in mano fuori. È il corpo della mia. Esatto. Finalmente sei completa, Isabel! Tu ispezioni la casa delle bambole. Perception. Tu. Io volevo... Vabbè, lui ha detto che... Sì, è vero. Dava la casa delle bambole. Vai, vai, vai. Volevo vedere il aspetta, fagli fare a lui. In sostanza. 17. Noti, scopri tutte le stanze, le porte segrete della casa, inclusa una che dall'attico porta ad una scala a spirale che sta lì in fondo. È come essere Dio. Ah, è vero, ti stai guardando. Questa qua è. Dov'è? Ah, quella lì, ok. Che va giù. Ok, provo tipo a rompere un mobiletto della casa delle bambole. Perché? Per vedere se si e rompe anche nella vita reale. No, ma non voglio fuoco, guardare, no? Voglio dare fuoco. Cazzo, dagli fuoco. Se dai fuoco alla casa delle bambole, mobile nella stanza. Dai fuoco alla casa delle bambole, così dai fuoco a tutto. Come è quello dentro, che voglio. No, aspetta. Cosa? Bellissimo. Non dai fuoco, se no dici avresti di andare in una stanza e poi rompi tutto in quella stanza. No, ma penso è paranoia. Non funziona, non funziona purtroppo. Cioè, come cazzo? È la casa futura. No, aspetta. Il prete, il paladino, magari i corpi, i scheletri, le cose. Ma no, magari i cosi qui per te. Quando rompi, sono morti sti bambini. Quando rompi un mobile nella, nella cosa delle bambole. Io non ho compassione per i morti. In mezzo alla stanza appaiono due figure spettrali. Oh, ho visto, ci hai pensato tu. I due bambini. Oh. Ci hai pensato tu. Iniziativa. No, sto scherzando. Sono, non vogliono, cioè si lamentano che state rovinando i loro giocattoli e quindi scusa, lasciali stare. Non l'ho fatto apposta. Ma cosa? Brutto. Adesso come farò a ripararlo? Uffa. Guarda, si fa così. No. E, dicono purtroppo non ci possiamo divertire più da quando siete morti. Dico. Si intristiscono, ma è quello il come siete motivo. Morti? Se gli chiedete come sono morti, vi spiegano che i loro genitori li hanno chiusi nell'attico per proteggerli dai mostri nel cimitero. Non hanno fatto un buon lavoro. E quindi sono morti di sono morti di fame. Ma nice. Quanto tempo fa, scusa? Non c'è scritto, Giulio. Non lo sanno, magari. Non sanno. Il tempo non ha più significato per loro. Ma vostro padre era stronzo. No, così. Beh, facilmente intuibile. Va bene. Ma non è che. Dov'è questo sotterrato? Rosa guarda, indica la casa delle bambole e dice: c'è una porta segreta nell'attico. Che porta al seminterrato. Dov'è il terzo bambino? Ed è l'unico modo per arrivare al seminterrato? E perché invece di mettervi all'ultimo piano non vi ha nascosto al primo, che è più lontano dall'entrata per il seminterrato? Cosa vuol dire? Non questo è che sono nascosti alla loro stanza. Vabbè. No, nel senso che c'è praticamente per andare al seminterrato, esatto. Devi arrivare fino su. Esatto. Vabbè. E i genitori erano nascosti nella loro stanza. Cioè, il vero terrore di questa casa in realtà è l'architetto, sì, che l'ha progettata. Esatto. Io chiedo ai bambini, dov'è il terzo bambino, quello che si vede in braccio a vostro padre nel dipinto? Secondo me è il mostro. Non erano loro. È nella stanza qui accanto. Il bambino. Mi chiamavano Sherlock Holmes. Ma quindi anche i vostri genitori sono morti? Non crebbe mai. Non sappiamo che fine hanno fatto i nostri genitori, non abbiamo mai più visto. Conoscete, non sono mai più venuti a conoscete salvarci. Il barone Strad? Babbo ne parlava. Parlava anche molto bene, era quasi un'ossessione per lui cercare di impressionarlo, cercare di entrare nelle sue grazie. Forse per questo ci ha abbandonati. Come avete fatto a morire, visto che nel coso dice che tipo qualcuno è immortale o qualcosa del genere, maledetto? Non so. Non ho capito. Rileggo la lettera. E capisci che è Strad che è immortale, loro no. Ah, ok, ha senso. No, niente scusate. Sì, voi siete morti. Beh, non dico loro, magari genitore. Starete qui per sempre a tenersi compagnia, vero? Certo, cosa intendi con andate in pace. Cosa vuol dire non crebbe mai? Però il terzo bambino è morto. Ah, ok. E perché ce l'hanno dipinto? Esatto. Dipinto, poi dipingere. Ah, quindi la vostra mamma lo stava guardando male perché era morto. Non lo so. però no, perché però era male, perché non era su. Ha detto che aveva trovato qualcosa nel ventre di un'altra donna, tipo. Sì, sicuramente sì. Era un figlio bastardo, però perché nel dipinto sei nato morto. Un'altra donna, quella no, che hai appena bandito da questo piano di esistenza dell'altra stanza. La tutrice. La tutrice. Nutrice. Ora come ti proprio sei? La cameriera, è proprio lineare. Beh, proprio... io gli ho detto siamo qua per te. Effettivamente. È l'ora del tè, venite a prendere il tè con le mie bambole. Noi andiamo giù con chi, scusa? Con le mie bambole. Dopo, vedi, anch'io ho una bambola. Oh, come, cioè, come si chiama? Isabel. Ciao Isabel, vieni a prendere Ciao. Il tè con me. Dopo, prima devo andare di sotto ad ammazzare una persona. No, non ci abbandonate. Non sono... Poi farete come i vostri genitori, non tornerete più a riprenderci. No, venite anche voi con noi. Torneremo perché questi due santuomini devono dare la estrema unzione ai vostri resti. Ma non vogliamo essere unti, tempo noi vogliamo di fare un piccolo rito. Andiamo giù, dai. Per la tua paura o perché? Per il suo ruolo, tipo. Ma adesso so io. Non morto, non morti comunque. Okay. Non sono allo scazzo. Quindi cosa fate? E io gli dico, noi andiamo di sotto nel sotterraneo. Io gli dico, andate in pace, bambini. Si lamentano. È tempo, di, è tempo che voi riposiate. Io prendo un lenzuolo e copro i due. Ma non siamo stanchi, vogliamo giocare. Faccio un persuasion. Io prendo un lenzuolo, copro gli spiriti e controllo che se c'è no, della carne attaccata. No, scherzo. No, vedi, copro... persuasion. Non sono molto persuaso. Va bene, cosa fa? Chi esce? Per prima. Vabbè, non devo chiederlo. Io esco per prima. Va bene. Quando vedete che Arg Atanas esce dalla stanza. E la bambina che l'aveva presa in simpatia si getta su di lui e vedete lo spettro entrare nel suo corpo di Atanas. Sì. È un po' un problema se lui ci combatte contro. Aggiungi alla tua scheda il seguente difetto: mi piace essere in comando e mi arrabbio quando le altre persone mi dicono che cosa fare. Okay. Non stare a scriverlo, non scrivo niente. Non notate nessun cambio. Non c'è nessuna cosa. È una bella sera al contrario. Però. Comando e mi arrabbio. Se qualcuno mi dà degli ordini, direi che. Beh, quindi questa cosa è tipo amplificata all'ennesima potenza. Posto. Adesso è giustificato farlo, e questo è il problema. Dobbiamo prenderci pure l'inspiration. Adesso. Il suo problema più grande può prendersi pure l'inspiration. Io attraverso questa avventura poi il mio personaggio posso diventare più forte. Sì, effettivamente adesso. Più potente. Ma Giulio, non puoi fare questo? Sì che posso! Inspiration! Il tè! Vabbè, entra dentro di me e... niente, ti senti molto più autoritario e... Andiamo! E il bambino rimane da solo? Dipende, chi è che no, riesce a sperare. Non è una malattia... Oh, è una maledizione. Io così faccio il succube di Giulio anche in questa avventura. Io. Bene. Quando esce, torna appunto. Sì, faccio il succube di Giulio anche stavolta. Non mi abbandonare anche tu. Arriva anche il bambino. Sì, adesso. Sì. Aggiungi il difetto. Sono spaventato da tutto. compresa la mia stessa ombra. E piango, mi dispero quando le cose non vanno nella maniera che voglio io. Però scusa, cioè la bambina alla fine è anche figa, cioè come... Non notate come, scusa? No. Non notate. aggiungi tratto pedofilo. No, nel senso, cioè l'effetto della possessione. E mi metto a piangere? Non quando le cose non vanno come vuoi. Cioè il suo lo rende un verme strisciante. E non notate nessuno di te. No, io finora ne sto super spavaldo. Ora speriamo che tu sia un po' più cagato. Ma considerando che uno degli unici incontri che abbiamo fatto si è nascosto, è stato fermo. No dai, con l'armatura ho lanciato due frecce. Vabbè, visto che sono entrati in voi, perché... legalmente siete i possessori della casa. Io ho anche l'altro. No, prima lui però, per cui dovresti dare a tua sorella. Sono, sono il maggiore. Sono la maggiore. No, non è questo! Dove andate? Giù. Io vado a cercare la mamma. Sta cosa, sta... cerchiamo la famosa... Okay. Scala chiocciola. La chiocciola appunto sta lì in fondo. Sì. Per raggiungerla o entrata a destra o entrata a sinistra. Forse dipende da che lato. Cioè, in realtà io non capisco da. Da uno di quei tre, di quelle due. Cioè, sembra totalmente bloccata. Lo so, bisogna andare a cercare l'entrata. Vabbè, siamo. Beh, adesso la bambina dovrebbe. Io non ho i ricordi della bambina. No. Ok, prima... sfondo tutte le pareti. Prima siamo andati a sinistra, ora andiamo di nuovo a sinistra. No, io ho paura. Quindi andiamo zitto. No, a sinistra. Dove ci sono c'è quei il sassi? Magazzino. Il magazzino, quelli sono tutte le mobili, sedie, eccetera, che sono coperti da. Non mi dire che si muovono. Perché gli sposti si muovono. Perché io mi cago addosso. Scusami, ma non è vista l'entrata nella... Ci siamo mossi. Ah no, perché l'ha cominciato a rompere. No, sai che sta lì, devi scoprire l'entrata segreta. Vai, qualcuno faccia per sé, qualcuno di capace faccia per sé. Io vedete posso... lì c'è una stufa, vicino. Sì. E sotto una delle... di questi lenzuoli c'è una cesta di legno aperta e che contiene i... resti scheletrici della nutrice avvolti in delle lenzuola macchiate con sangue secco. Quindi è stata. Apro le lenzuola, guardo se per caso ci sono segni di arma. Sì, è stata. Ok, getto. Fai il medicine? Chi la fa? Fai tu un medicine? Io. 9. Potrei aiutarmi. Mi ha dato molto bene. Intuisci che possono essere state delle pugnalate. Beh, getto i resti sul pavimento. Ma a voi non fa paura tutto questo? Non ho compassione per i morti. Anzi, il contrario, loro sono fortunati. Loro sono fortunati. Ah, beata lei. Cominciate a cercare questa... entrata, vai, facciamo, cerca, dai. Ladro. No, io ho paura. E cerca lo stesso. Io ho paura. Sei. Non lo voglio fare, ho paura. Ok, mi ha guardato male, lo faccio. Mi ha guardato male, lo faccio. 19. Di merda. Sacco di merda. Trovate una porta segreta. Oh. La sfondo con... con la mia testa. Comando io, boom. Quando lo apri, una folata di vento gelido vi investe. Guadagni il talento. C'è una scala spirale di legno. Alla fine di questa avventura sarò tipo un essere scende. Mortale. Molto stretto. E pedofilo a quanto pare. Vabbè. Nel momento in cui l'aprite, cominciate a sentire una specie di eco, una cantilena. Molto lontano. Uno, due, ok, fermi tutti. Freddy viene passo in avanti, passo indietro, due passi in avanti, due passi indietro. Ora possiamo andare. Avanti. Ora possiamo andare. Dobbiamo scendere tipo quattro piani di scale. Io inizio a fischiettare una canzone da taverna. Scendendo. Dovrebbe essere il momento in cui finisce la puntata. Fischiettiamo una canzone. Oh, le. Io mi metto a parlare da solo, in realtà io so che cioè sto parlando con dei miei spiriti che mi parlano, mi rompo le coglioni, comincio a piangere. Non è il momento, roba. Vabbè, tanto ho anche degli incantesimi ora, finalmente. Il di 10, la vita, 8, bene. 7. Allora, 8 e 3 10. Ah, quindi 8 più i 3 della costituzione più l'1 della... Eh? Quindi altri 12. già tardino. Sì, è vero. Che altro? No, a 12-12. Due volte massimale? Beh, hai tirato 8 adesso. Ah, sì, certo. Cazzo. Ah, gli 8. Sì. 24. Bella. Tiro di 10. Quanto hai costituzione? 16. Più 3. Niente. 4, cosa prendo? Più 3, 11. È più 1 della sottoclasse. Medio. Ah. Ogni, no, il livello da più 1. Della collina. Io ho fatto 2, prendo 5. Hai più vita di me adesso? Sì. Sì. Cioè, che dado è pure? 8. Scusami, anche il di 10 prende 5. No, allora il di 10 è 6. Non si recuperano gli incantesimi, vero? Devi fare peccato. Poi cos'altro si prende secondo livello? Allora, però dovrei averne di più. Anche se non li recupero, dovrei averne di più. Io, Giulio, se vuoi segnartelo, vado a 15. Non so se vuoi segnare. Cosa mi succede? No, prendo Action Surge. Action Surge. Caccia via. Comunque adesso sì, comunque ce l'ho. Lo recuperi lo slot salendo di livello. Comunque Master ce l'ho adesso l'azione bonus. Ah, recupero lo slot. Secondo, perché no, si sì, recupera. Ah. Vabbè, comunque avevo fatto solo quello in quel turno. Però non ne ho 23. 24. Poi c'ho Fighting Spellcast. Tu quanta vita hai? Io sono a 20. Divine Smite. Vabbè, quindi tanca Bayern. Tu sei a 15? Sega? No, 15. Sega. Oh, però si è girato. Stavo già per dire Sheo, ma non è servito. Ok. Mi devo chiedere una cosa, non sono fatta per quello che voglio. Ecco, ah, ho capito. Sì, sì, sì, sì. È divertente, però, dai. È vero? Bella, è poverino. L'ho pensata appena partita questa cosa. Una cosa? Dopo te lo dico. Prima voglio vedere cosa riesco a fare. La parola poverino non so perché, so che c'entro io. Sono su di me. Eh? Non so, la parola poverino, poverino. Non l'ho detto io poverino, l'ho detto lui. Non lo so. Nessuno ti caga. Sei stato abbandonato. Chiuso. No, abbiamo dimenticato che quando uso gli attrezzi da ladro la mia competenza è raddoppiata, quindi il mio proficiency è doppio. Lasciata morire di fame. E anche la mia abilità che ho scelto, che non avevo aggiunto, adesso l'ho fatto. Ma quindi Paladino non ha i cantrip sostanzialmente? È un pupazzo come migliore amico. Ho un pupazzo come gli incantatori completi ce l'hanno. Questo ti fa sentire. Non come te in mezzo. No, sono uno scrigno. Come se tiravo il mignolo e venivo uno scrigno di qualche tipo. Ah no, però ce l'ho adesso, un portagioie. Una miniera. Una miniera. Toccherà mettere anche il livello 2. Beh, comunque siamo saliti di lei. Saliamo più veloci che con Beth. Questo non ci ferma. A parte Sheo, perché quando vero, arriva fa 2-3 livelli. Io ho fatto due livelli in una sessione. E oggi non so se lo faremo. C'era più livelli che sessione. In effetti. Direi che andiamo avanti massimo mezz'oretta, se proprio. Vai. Sì, facciamo. Ma cerchiamo di finirlo, dai. Ok, è duro. Ecco. Facciamo la sessioni. Prossima parte e poi. Se fare in due sessioni. La concluderemo, perché sì. Il bello inizia adesso. Capito, c'è una casa piena di roba, uno non è che vabbè, va dritto. Vabbè, però un po' io più posso veloce. Decidere quello che mi pare. Che è un sacco discretiva, purtroppo. Velocizzare è difficile. Allora, arrivate nella cripta. Che sarebbe quella con l'acqua? Che no. Sarebbe in alto, dove ci sono... La prima parte in alto, quindi non quella non con si l'acqua. Si vede, sai che non si vede da qua, devi Beth, abbassare muovi. La mappa. Allora, aspetta un attimo. Cosa vuoi sapere? La parte più alta della parte destra. Vai, alza. È qua che sì, arriva sì. La scala. Chi è? Questo? Quello lì. Cazzo, è pieno di letti. Veramente è anche bare. 10. Ma sì, letti. Che cazzo parla in un posto del genere? Boh, scopriremo. Beh, forse no. Boh. Cazzo. 22. La scala di legno a spirale finisce qui. Ah sì, lo vediamo. No. C'è un tunnel stretto che si allunga verso sud e poi si divide a est e a ovest. Immagino ci stiamo in fila indiana. È lungo, sì, sta uno dietro l'altro. Ma dico come larghezza, sì, non possiamo stare in giro. Quindi aspetta, arriviamo dal... dalla scala che ho. Quello centrale? No, dov'è? Questo? Vedi che c'è... no? No? Quello a destra. Ah, questo. Esatto. Ok. Nel momento in cui arrivate in questo piano, sentite questo incessante canto che echeggia in i corridoi. Riusciamo a capire la direzione? Non è neanche possibile capire la direzione e capire le parole. Diciamo qua? Da qua, guarda. Ah, da qua, ok, va bene. Io inizio a incanticchiare questa. Però ovviamente non è la mia voce. Forse qua è quella della bambina. Può essere? Però più... era tipo la ninna nanna in The Witch. E quando... cosa fate? No. Nel trailer, in uno dei trailer di Milano. Proviamo a seguire la voce allora, dai. Quello in cui c'è la tizia rossa. Proviamo. Proviamo. Infatti, detto. Vi trovate nella cripta di famiglia. Non c'è la luce, è tutto buio. Accendo tutto. Cosa accendi? Boh, qualsiasi cosa trovo, ci sono delle torce. Cioè. A parte che una torcia ce l'avevamo dietro. Vabbè, accendo pure, dai. Qua sotto. Sì. Accendo, se vedo dei letti li accendo, se ci sono delle bare li accendo. Delle bare? Sono dei topi, li accendo. Almeno corrono finché non muoiono. Gli scarafaggi li accendo. Ovviamente noi non vediamo la mappa come personaggi, quindi dobbiamo decidere da che lato andare. Le porte le accendo. Come vi dicevo, li trovate nelle cripte. Ci sono diversi loculi, ognuno delle quali ha, anzi, molti dei quali, ma non tutti, hanno delle iscrizioni sulle lastre di pietra che chiudono ovviamente la tomba. Qui ci sono delle date? Esiste la polvere da sparo? No. Che cazzo. Non posso dire, avremmo dovuto portarci dietro un barilotto di polvere da sparo. A, B, C, D, E o F? In quale andate? A, di A. Tiriamo un dado. 6? A, B, C, D, F. Di 8 di 6. Di 8 F. F è quella alla vostra destra, F. Di nuovo a destra, a sinistra. E sulla lapide, non la lapide, la lastra che copre la tomba, ci sono scolpiti il nome e il cognome di Thorbolt Darst Spino. Io. La camera contiene una tomba. Io rimango un attimo così poi dico, ah già, fanno le tombe prima che la gente muoia. Eh sì. È la mia. Se vuoi ti ci metti dentro. E c'è la tomba vuota. E certo. A sto punto, visto che abbiamo visto come funziona, vediamo tutti i nomi di queste qua. In quale andate? Quella di fianco? Sì. Andiamo a prendere quella di fianco. C'è la un'altra sorella. Tomba con il soprannome Rosavalda Darst. Ma queste sarebbero state le tombe, esatto. Di famiglia, no? Ok, torniamo su a prendere. E gli rimettiamo, si dovrebbe. Però fare. Sì, cioè dovete fare. O se lo vuoi fare il chierico, lo fai tu, perché a me frega cazzo. Cioè, dai. Va bene tutto, ma. Chissà se c'è anche la tomba della tutrice. No. In quale andata adesso? Quella dietro? La 4, quindi la D. La D c'è scritto il nome di Elizabeth Darst. La mamma. Quindi la C sarà del padre e gli altri dei nonni. la CE del padre. No, apro quella della madre. Apri quella della madre. La lastra è pesante, serve una prova di forza. Vai, io ti aiuto. Posso aiutarlo? Vantaggio, se lo aiuti. Sì. A lui. Vai. Usare un piede di porco dà vantaggio a questa prova. Crossbow, ce l'abbiamo. 10 più da... 5, no, 15. Come facendo uno sforzo sovrumano, apri la tomba. Intanto lui prende un manuale di mostre. È divertente, però, dai. Ma io lo so, lo faccio apposta. Io uccido mostri, li devo pure, cioè, nel senso. Per me sarebbe uno spreco lasciarli. Sì, ma io voglio carne umana, qui ci sono solo scheletri esperti. Come riveli il contenuto, scopri che è piena di insetti, di centipiedi. Schifo. Che escono fuori e vabbè, assaltano chi ha aperto la tomba. Io scappo impaurito. Gli butto la torcia al fuoco. Dipende quanto, a seconda di quella che sarà la tua iniziativa. Prego. Beh, la sua. 20. Era 22 dai, stavolta ti batto. 11. Ma non la dobbiamo far tutti. Sono. Beh, sì. Credo di sia uno sciame di 7 che attack. La dobbiamo far tutti? 3, 3, 8 se vuoi, se no, fai pure. Sono 7. Sei. Dove sono? Puoi spararglielo i Sacred Flame. Ma no. No. Li sciupo. Ce l'hai gratis, cioè non, no, non sono gratis, ne ho un tot. No, i cantrip no. Sì, Sacred Flame. Livello 0 sono. Ok, quindi sì, ma ne ho 3. No, ne hai 3, ma ne puoi usare all'infinito. Li prepari 3. Okay, li conosci, i cantrip ne conosci 3, ma li lanci a volontà. Ah, ok. Artonas hai detto 20? Sì. Gli altri? 22. Scapperò più in fretta. 12. Beh. 11 mi sembra. Io ho fatto 11. Va bene, vai Adene. Scappo. Ok, appaurito in là. Però ti meno. Ciccio è torno, non sono io. La scusa. No. Ma pendenti io gli altri. Vabbè, se sei inutile ti taglio le gambe e ti lascio qua. Scappo impaurito. Posso usare quanti voglio. Vabbè, direi. No, questi sono le valli che poi lascio. Spaventato da tutto, cosa devo fare? Hai capito? Sarebbe stato devastante. Vai, cosa fai? Gli butto con la torcia che ho in mano. E poi gli do anche una spadata, già che ci sono. Vai. Allora, la torcia è viola. Che schifo. 10 con la torcia e 16 con la spada. Con la spada colpisci. 8. Ok, ovviamente essendo uno sciame i colpi hanno meno effetto rispetto a un bersaglio normale. Ovviamente. Lo so. Sarebbe il martello. Non sarebbe cambiato. E serviva la torcia. Ma sarebbe. Gli hai tirato la torcia o gli hai dato un ti riempiono di tanti morsicottini. Fumble. Quindi un milione di piccoli insetti, non ce n'è neanche uno che riesce. Entrano nella torcia. Si bruciano. Bene, dopo. Luzzi. Ah, io? Con 12? Cosa avete fatto voi? Lui è scappato, sei stato me. È stato tirato tutti altri. Faccio Sacred Flame. Ah no, non devo tirare, tu devi stressare, vero? Non sono CD? Abituato. Fallisci. Vai. 2 danni. Sane? Sì. Andiamo con la spadata. 15. Colpito. Allora il 2 lo posso ritirare. Che è il mio nuovo bug. 11 danni. Occio. Una spada danni normali. 1, 2 lo posso ritirare. Adesso no, danni sì, da spadone. Ok, vai. Sempre torcia e spada. Sempre. La torcia fa 24 e la spada 22. Quanti danni fa la torcia? È un D4. D4 danni da fuoco, cioè. Sarebbero contundenti in realtà. Non però non dà fuoco contro lo shanty. Se no uso la spada, non uso la torcia. Va bene, allora fai un D4 di danni pieni. Sono... vabbè, non gli aggiungo la forza. 3 danni con la torcia e 8 di spada. Ok. Va bene, vediamo se riesco a colpire qualcosa stasera, perché tipo... oh, ti io mordicchiano 16. Le carni. Tante, tante piccole fauci. Sulle fauci. Banchettano. Immaginati tipo 100 incentivi tutti con la voce. 10 danni. Ecco, 10 danni. Squisito. Un coro di piccolo. Però. Non è pesce, però. Non è anche lui. E non Bayern. È lui. Bayern. Fai. Tira salvezza. Fallisce. No, 6 danni. Bruciano. Le fiamme dell'inferno. Finito? Sì. Io sono in angolo a piangere. Action. No, aspetta. Second wind. Cos'è? Un di 10 più. Un di 10 più livello? Credo. Dovrebbe essere più. Ma sei ferito? Sì, mi ha fatto 10 danni. 10 danni? Beh, visto che non sapevo che erano gratis, mi faccio light sullo scudo. Almeno la luce anch'io. Non volevo sprecare cose. Cosa sei messo a cura? Io ho tutto pieno. No, non voglio fargli usare una cura. Abbiamo anche la pergamena. Una era di cure, una era di coso veleno e l'altra non mi ricordo. Se ce l'ha fatte prendere. Benedizione. Alla fine io questo lo recupero con un riposo breve. Quindi. Ma non lo faremo nelle cripte, riposo breve. No, ma da qui, visto che non finiremo le cripte qua. Ragazzi, guarda, non so come vedo. Vabbè, ci guardo, intanto ne mando. Sì, sì, va bene. Le altre cripte. Una padre e due nonni saranno. Di Walter Darst. Non so chi sia. Nonno. Può darsi. Oppure. Un fratello del papà. Oppure. Un altro figlio. Il figliastro. Magari è nato morto. E poi lui. Dipende quanto è grande. Una cripta. Sono 10 più di me. Un'altra invece è vuoto. Apriamo quella del bastardo. Vai. Recupero 5. Cosa? Allora, se usi il second wind. No, dico per la prova di forza per aprire la tomba, hai vantaggio se usi il piede di porco. Sì, apriamo quella del bastardo. Apriamo le tutte. Quella del bastardo. Si dice così. Sì, però sono stanco di essere attaccato. Fai. Vabbè, assolutamente. Che schifo. 10 e 13, quindi 13. Non ci riesci. Ragazzi, ce la faccio. Vai, sta a me. E io però ho svantaggio, però se uso il crowbar è si annulla, vantaggio, quindi tiro uno solo con athletics. 9. Non si apre. È impossibile. Vai, ci provo io. Prendo coraggio. Non hai forse paura di tutto ciò? No. Non riusciamo, anzi, né io né lui. Ho vantaggio perché anche io ho il crossbow. E ti sparo un 15. Si apre. Ah, con la mia forza delle mie gracili di breccine. E cosa vedo? Niente. Ok. È vuoto. È vuoto. Come è vuoto? Proprio? La cripta è vuota. Quella del che potrebbe di questo altro Dart, insomma, di Walter. Beh, quindi se era morto non c'è rimasto per molto. Ma lì dove c'erano gli insetti non c'era niente qui dentro, sostanzialmente. Ah, giusto. Era vuoto. Oltre gli insetti, ovviamente. Che era quella della mamma. Mm-hmm. Si ho capito. Puoi aprire anche quella del padre? Sì. E beh, a questo punto. Tutto. Vai. Vai. 24. Vuoto. Sono tutte vuote, quindi. Quelle che avete aperto, sì. Quella del... ah no, non c'è il nome. È una vuota. Beh, giustamente... sì. C'è una senza nome. E... ci sta. Le abbiamo aperte tutte quelle che abbiamo trovato. Non mi ricordo. Perché queste sarebbero dovute essere le loro tombe, però probabilmente però sono o morti in giro oppure i genitori. Vabbè, andiamo avanti. Ancora vivi, per quello che sappiamo. O qualcosa di o morti, ma non è le loro tombe. O qualcosa oppure, se andassimo a letto. a riposare anche noi. Ci sta. Eternamente. Ok. Ah, madonna. Cioè, eternamente, fino alla mattina. Siamo qui? Capito che non vuoi andare a lavorare, però. Tu sai anche che domani è come oggi. Vabbè, dai, continuiamolo a sto punto, però. Ah, sì, certo. Non sfuggirete così facilmente alla presa della morte. Sì. Anche se sarà... Prossima settimana no. Quella dopo ancora. Adatta da destinarsi. Prossima no, perché? Siamo via. Sono... Una è tua e una... In qualche paese dell'est Europa. Non so, vabbè. Cioè, questa è tua. Sono via. E quella è... Quando la usciamo da Vef. Giovedì? Che festa? Questo è il 21, no? Io l'unica traverso. Forse potrei... Vabbè, però un po' un macello, è proprio stancante. Domenica sera. Ah, dicevo giovedì. L'uno è festa. Giovedì l'uno è festa, non lo so. Non so neanche se m'alleno, non so niente. Vabbè dai, ci sentiamo. Ci giovedì non lavora nessuno, immagino. No, vabbè, però avendo una giornata libera la usavo per andare no, a caccia. No, no, certo. Per andare a caccia, a pesca. Va bene. Allora, grazie per averci seguito. Questo era lo special pre-Halloween, in realtà, quindi seguirà lo special post-Halloween. Esatto. Speriamo senza tutti questi incendi in casa che fanno perdere tempo, Giulio. No, vabbè, non sono io che ho fatto con tutto gente tempo. Che brucia roba in giro. Cioè, alla fine dicevo, prendo accendo, fine. Sai, che è molto... un po' dispersiva, nel senso che è molto descrittiva. Ma è che c'è però la ci casa... sta, cioè, è... la parte anche bella di questo che ti dà l'atmosfera, che ti dà... Amici, sono tre piani senza niente, praticamente. Niente, c'è lo spettro, la... E la madonna. No, i primi due, piano terra... Livello 1, aspetta, che posso essere. Piano terra... Prima non abbiamo beccato. Piano terra, in realtà abbiamo fatto un sacco di scontri per essere a livello 1. Sì, ma piano terra... Si chiama prima, casa della morte. Piano terra e primo piano non c'era niente, però. Ok, cosa vuoi, un mostro ad ogni piano? Che cos'è? Un... No, però, cioè... Vai, un po' di che sarà il dungeon? Un po' dispersivo per il gioco, cioè piuttosto fai un piano di meno, capito cosa voglio dire? Va bene, questo era per la buchetta dei suggerimenti da parte di Sceo. non a lui, a chi ha fatto l'avventura. Vabbè, dico. Cioè, su quattro piani, due vuoti. Non sei stato l'unico a lamentarti di questa cosa. Comunque, grazie per averci seguito. Alle prossime edizioni di Typhoons and Dragons. Ringraziamo Katta per lo sbatto di essersi letto le robe in inglese e di averci masterato, e vi diamo appuntamento ai prossimi episodi. Ciao a tutti. Ciao. Io vado a chiudere con profondo rosso. Ok, gli amici del podcast sono ancora con noi. Podcast. Ciao podcast ungherese. Amici del podcast ungherese. Ciao a tutti.